allora parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente male. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani Parenzo. Che barba, che noia. Cruciani Parenzo. Ma se zia. Quando la chiudi questa trasmissione? Lo sai la scena più bella che ho visto durante questa lunghissima estate? So che per te è stata un'estate di lavoro, per carità, non voglio infierire, eh? Non voglio infierire su come hai passato quest'estate, sui tuoi rapporti familiari. Penso che siete arrivati a un passo dal divorzio, da quello che mi dicono, eh? Ho notizie. No, sì, a me sì. Non risulta, sì. Però, vabbè, io credo, io ho delle notizie molto riservate. No. Io credo che la tua estate passata al lavoro abbia prodotto praticamente una separazione. Lo possiamo, lo possiamo annunciare questa sera o no? Ma manco per niente. Cioè, ha rafforzato cioè, la tua presenza continua in onda, dalla zanzara in onda e poi adesso successivamente alla zanzara ha rafforzato la coppia o ha provocato, ha rafforzato la coppia. Dopodiché sull'ipotesi del divorzio è più facile che Salvini diventi del PD piuttosto che io mi separi. Scusami, è più facile che Salvini accolga in casa sua un migrante senza farsi dare i 35 euro dallo Stato e gli regala telefonino e wifi piuttosto che io mi separi. Cioè, questa è una dichiarazione d'amore pazzesca e anche devo dire una per te è un impegno preso quasi col sangue qui alla zanzara. Cioè tu dici è praticamente impossibile che tu ti separi con la signora Natalia Zevi. Impossibile. No, io ho detto che è più facile che Salvini prenda in casa suo un migrante. Vabbè, potremmo provocare anche Salvini dicendo scusa, prendi a caso un migrante. Esatto. Allora, ti dicevo che la scena più bella che ho visto quest'estate, a parte che ti invidio per essere stato in onda a dire qualcosa durante quelle giornate meravigliose che hanno esaltato, io direi, la capitale. Non l'hanno umiliata, hanno esaltato la capitale. Perché abbiamo visto per la prima volta una chiesa col sole che splendeva, con un elicottero che spargeva petali, con una carrozza meravigliosa. Le carrozze non si vedono più. Se non ce l'avessero portata di Casa Monica a farla vedere la carrozza, ma che cazzo la prende la carrozza? Una vergogna inaudita. Ma quale vergogna? A parte che ognuno può fare il matrimonio. Avremo modo di parlarne. Sì. Ti dico che ti ho invidiato. Funerale, puoi far suonare anche il ballo del quaquà. No, io voglio un funerale. Non è quello il problema, un funerale officiato da Mauro Corona in montagna, tumulato in una montagna isolata dove non viene nessuno. Questo vorrei. Per cui, proprio lungi da me l'idea di fare un funerale kitsch trash alla Casa Monica. Assolutamente non ho la minima intenzione di fare una cosa del genere. Però ti dico che ti ho invidiato. Forse per la prima volta in vita mia. Ho provato un forte sentimento di invidia per aver. Era in onda, ha scelto deliberatamente di parlare. Beh, era in onda su In Onda, hai capito il gioco? Sì. Era in onda su In Onda e ha deliberatamente scelto di parlare del funerale di Casa Monica. Bravo, un applauso, vogliamo fare un applauso a Parenzo? Facciamo un applauso a Parenzo. Dai. Allora, no, ti dicevo, dopo aver aperto due parentesi, che la scena più bella di quest'estate l'ho vissuta a Courmayeur, caro Parenzo, di notte. Posto sì, di sinistra, sono stato invitato in un bellissimo albergo a 7 stelle, 8 stelle, quegli alberghi che c'hanno da un'associazione che fa una specie di, come le solite cose, dai, lo sai, no? Ti invitano a parlare, ho parlato della zanzara, di un sacco di cose. Ho parlato sempre bene di te, ricordati, sempre bene di te. Allora, questo albergo meraviglioso, tu sai questi alberghi che hanno 8 stelle, che non sai, ma quante cazzo di stelle? 7, 8 stelle. la cosa incredibile, tutte stelle pazzesche. Non cioè. C'erano migranti. No, no, ma figuriamoci, no. Gente per benissimo, gente. Ma che senso per bene? Gente per bene, cioè. Allora, no, non perché non siano per bene, cioè, c'era gente, come dire, ricchissima, gente facoltosissima. E c'era Vittorione Sgarbi. Vittorione Sgarbi, la scena più bella di quest'estate, ti giuro, era alle luna di notte, a un bar che si chiama Posta Courmayeur. C'era Vittorio che era a piedi nudi, scalzo, con la sua fidanzata, pseudotale, la signora, com'è che si chiama, Parenzo, non mi ricordo più. Quella la Sabrina Colle, sì, quella ufficiale, sì, quella con cui lo scopano da più di 10 anni, dicono. Questo no? Non lo sappiamo. No, ma l'ha detto Sabrina pubblicamente, ha detto, non scopo con la mia fidanzata da più di 10 anni, ma va benissimo, è normale. E a piedi nudi, e con lei che gli grattava i piedi davanti a me, a 20 centimetri da me, cioè i piedi di Vittorione Sgarbi. Sabrina Colle, esatto, bravo, uguale. Sabrina Colle e lui che grattava i piedi, lei che gli accarezzava e gli grattava i piedi. Vittorione, bellissimo. La scena più bella di quest'estate. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Però dobbiamo parlare di cose serie o no, Parenzo? Perché sennò veramente ci perdiamo. Ci perdiamo. Bellissimo l'apertura così, dedicata ai piedi di Sgarbi, meraviglioso. Ho incontrato vari politici, anche la Boschia Formentera ho incontrato. Ecco, una domanda potrebbe essere posta qui: è normale che un ministro faccia alle 4 di mattina in un locale noto di Formentera, che io conosco come il Blue Bar di Formentera? Saluto tutti gli amici che sono ancora sull'isola. Beh, insomma, alle 4 di mattina, alle 5 di mattina, mentre in Italia ci sono morti, migranti che muoiono, alle 4 di mattina, alle 5 di mattina. Vacanza, ministro si fa trovare così, cioè alle 5 di mattina, ballanti in mezzo ad una marea di maschi famelici che sono lì intorno. Che per carità, lei non c'entra niente con queste cose qui. Era col suo ex fidanzato Ciro Bonifazi, che mi è venuto incontro salutandomi. Mi ha detto: hai visto Parenzo che bravo sulla 7? Così ha detto il vecchio Bonifazi. No, io ho detto a lui: hai visto? Sì, ma non ti, ho detto: non ti ha ancora invitato. È quello che tiene la cassa del partito. Ma non ti ha ancora invitato? Beh, no, non mi ha invitato. Era un po' arrabbiato, devo dire che non l'hai ancora invitato. Non credo, guarda, questo non credo. Vabbè, allora è successa una cosa drammatica in questi giorni, come tante cose. È successo che due signori anziani in un paese che si chiama Palagonia, non so come diavolo si chiama, in provincia di Catania, sono stati uccisi da un extracomunitario, un clandestino, un migrante, come diresti tu, che era presso un centro di questi qua di Mineo. Il cara di Mineo, che è stato fonte di scandali pazzeschi, dovrebbe essere chiuso da tempo, secondo me, dove i politici hanno mangiato tutto quello che potevano mangiare sopra questo centro di Mineo. Tutto, eppure è ancora lì. Vabbè, parentesi. Questo tizio è uscito, è stato fermato e non è che ancora ci sono prove ufficiali. Comunque è molto probabile che sia stato lui. Ha sgozzato, cioè ha tagliato la gola all'uomo e credo che abbia picchiato e buttato dalla finestra. La figlia è leggermente incazzata, Parenzo, leggermente incazzata, ed è lei che ha parlato di colpa dello Stato, non Salvini, Meloni, che poi si sono accodati, eccetera, eccetera. Uno può dire speculano, ma la signora, la figlia della coppia, è partita subito in quarta. Io da stamattina che faccio l'appello a Renzi e Alfano, perché qui la situazione è tragica. Hanno ucciso i miei genitori per 4 cose: cellulare, videocamera e un PC portatile. Non si può ammazzare le persone, non si può ammazzare per questo, non si può. Rosita. Lo Stato deve tutelare i cittadini italiani. Visto la drammaturgia della signora D'Urso. Rosita, pianti, per carità, tutto vero per quello che riguarda la signora Rosita, com'è che si chiama questa, Parenzo, tu che sei tutti in questi giorni, Rosita Solano, vuoi dare torto tu a questa signora? Vuoi dargli torto o no? No, ma che deve, quando c'è la rabbia delle persone, io do torto ai politici che in questo caso ci hanno messo il cappello subito sopra. Ma che devi fare, scusa, ma ti pare normale a te che uno... capisco che la cronaca diventi... No, ma d'accordo, ma il problema fondamentale è che... La vorranno candidare, magari le chiederanno, cioè capisci, è tutto questo che poi diventa simbolo di una campagna politica. Ora, ma è normale che sia così, è normale. Il cinismo della politica è normale. Quanti migranti ci sono passati da quel cara di Mineo? Che non hanno fatto un cazzo, dici tu. Esatto, beh, se uno dovesse fare un calcolo statistico delle persone uccidono più gli italiani. Non so se gli italiani o se gli immigrati, anche banalmente, tragicamente, una questione brutalmente statistica. Per fortuna questo è l'unico caso che c'è stato, ma questo non giustifica fino adesso, per fortuna, è così a livelli di efferatezza come questo, è l'unico caso che mi risulta, no? però, allora la signora Solano dice anche che sono bestie che il governo accoglie, cioè sembra quasi, cioè peggio di Salvini. Ma nessuno può attaccare la rabbia della Beh, tu dovresti avere, dovresti avere il coraggio di attaccarla. Non attaccala posso se hai coraggio. Perché c'è ma ha avuto la famiglia, ma in quel modo barbaro. Ma questa però fa anche delle valutazioni che vanno al di là del. No, ma io guarda, scindo, perché chi ha avuto un lutto come quello non si può avere anche il diritto di sostenere delle cose di tremende. Prendersela contro lo Stato. Chi lo ha avuto, sì. Chi ha avuto quel lutto può sentiamo anche dire anche peggio, può anche dire. Sentiamo. Non la politica. Sentiamo. Io mi sono fatta 1500 km per venire qui a trovare i miei genitori, non più vivi, ma massacrati da delle bestie che il governo si ostina a portare ancora e accogliere. Loro non vogliono essere accolti, loro solo vogliono essere dei padroni, rubare, prendere, ammazzare le persone. Si deve fermare questa barbarie. Però scusami Davide, qui va al di là la signora Solano, no? Dice delle cose molto precise, cioè dice delle cose che sono praticamente un programma politico. Allora tu che sei contro questa generalizzazione, lei dice una cosa di pancia e purtroppo beh, rubano, prendono, lo Stato gli dà troppe cose. Ha subito un lutto di quel tipo, con quella violenza inaudita, e ha sulla pelle la sofferenza di quella roba. Quindi è evidente che può dire qualunque cosa, perché è come quando le persone chiamano da noi e ci raccontano di quelli che hanno avuto il furto in casa, che stanno male, c'è cioè, chi ha subito una roba come quella, dice questo, il politico non può permettere. Ma adesso ne sentiamo uno fra poco. I miei uccisi per quattro cose, sentiamo quest'altro. Io mi rivolgo a Renzi, al ministro Alfano, loro che ancora vogliono far arrivare questi immigrati, accoglierli, ma accoglierli non significa lasciare poi i cittadini allo sbando di questi, senza controlli, senza sicurezza. Perché io dico, se una cosa del genere fosse successa ai genitori suoi o di qualche altro ministro, non sarebbe. Questa è pronta la candidatura, eh? È pronta la candidatura. Io lo dico in maniera cinica, ma è così, eh? Questa è pronta la candidatura, caro Parenzo. Pronta, prontissima. È pronta ad affrontare un dolore enorme, altro che candidatura. Sarebbe. Capito, ma ti pare normale che sgozzino i genitori dopo due secondi e dopo due secondi fai un programma politico? Ognuno sfoga la rabbia come vuole. Vergognoso sarebbe se i politici gli proponessero una candidatura. Questo sarebbe il basciacalli. Ecco, questo è il punto. Cioè, se qualche politico si dovesse sognare di candidare questa persona che ha subito questo dolore, questo sarebbe da sciacalli. Ma scusa, quelli che candidano invece le vittime del terrorismo a sinistra non vanno bene? Infatti qualcuno ha sollevato in passato quella polemica, però sono cose abbastanza diverse, no? Le vittime di è oggettivamente diverso. Io non capisco perché i signori Casamonica, se è vero che se la sono presa, i signori Casamonica, gli emeriti Casamonica, attacchino Dado, quel comico romano, come? Fantastico, no, il quale l'ha minacciato di morte. L'ha minacciato di morte, bisogna vedere se è vero o non è vero, chi l'ha minacciato, chi non l'ha minacciato, se è vero che sono Casamonica, non è vero, adesso poi verificheremo nel corso della puntata. Però la parodia è fantastica, cioè la parodia che ha fatto sui Casamonica e sul funerale, direi che non è nemmeno troppo, no? Sì, è una presa per il culo, ma è soprattutto in realtà attacca Marino e attacca lo Stato. E non l'hanno capita questa, non l'hanno capito i signori Casamonica, se è vero che i signori Casamonica. Vogliamo sentire un pezzo? Vorrei una bara fiammante fuori la chiesa, la mia faccia gigante, ed una banda che suona le note del padrino re di Roma, un grande cocchio, sai, di quelli che non si usano più, un sindaco in ginocchio. Eccolo contro Marino, fermi tutti, torniamo tra un attimo, eh. Quando io lo dirò, non voglio mica la luna. Traffico, veio chi là, vero chi. La Zanzara. Davide? Allora, un tuo amico, collega ormai direi, perché mi sembra che sia stato invitato in onda, il signor Gio Formaggio, sindaco di Albettone. Collega, Ciao. Collega. Ciao. Io faccio. Lui fa il sindaco. Beh, che non è un altro mestiere, diciamo. lui fa il sindaco, io faccio l'altro mestiere, lui fa il sindaco della, dei Fratelli d'Italia, lì non so neanche di che cosa. Allora, caro Joe, tu che cosa faresti? Hai sentito come dico caro Joe, caro Joe. Caro Joe. Caro Joe, vorrei, io sai che vorrei essere, non dico adottato, cioè vorrei... La cittadinanza onoraria del Bettone. Esatto, bravo. La perché non... solo questo. No, no, no, ti prego, Joe, dammi intanto tu fai il cazzo che puoi ti pare. Puoi dare anche al Divino Telma, a quel punto hai fatto il... No, stai paragonando Joe Formaggio al Divino Telma? Eh? Hai paragonato il Joe Formaggio al Divino Telma? Beh, la seconda è una brava persona. Ma no, dai, su. Ma il Divino Telma, Joe Formaggio è un amministratore, un creatore, un creativo direi, un creativo. Per esempio, ha proposto una tassa sui gay. Trovo... No, allora, lasciatemi prima spiegare e dopo facciamo come... Allora, si stava parlando di gender. Vabbè, maestro, si lascia perdere il gender. Vuoi dare... No, lascia stare. Ti dico come è venuta fuori, dopo fate quello che volete. Come? Beh, stava quello parlando sempre. Di gender. Si stava parlando, ma se i tuoi figli sono costretti, eccetera, in una società dove i gender prendono sopra, ho detto, non vedrei male una tassa sui gay, perché altrimenti qua, se tutti quanti diventano omosessuali, gay, lesbiche, eccetera, i bambini non li fa più nessuno. Quindi, estrapolata, viene fuori che Joe Formaggio vuole mettere ad albettone la tassa sui gay. No, ma scusami, Joe. La voglio mettere ad albettone, ho detto, in un mondo così la vedrei bene. Beh, appunto, vuoi mettere la tassa sui gay? Scusa, non è che hai detto una cosa diversa. Insomma, devi capire che mondo che mi hanno proposto, no? Vabbè, ti hanno proposto un mondo in cui domina il gender, in cui non c'è più nessuna differenza tra uomo e donna, i transessuali, domina insomma una sessualità che non è più quella di un tempo, una sessualità molto diversa. Tu, per esempio, non hai mai avuto un'esperienza omosessuale, Joe? No. Ma non ne ho mai sentito l'esigenza. Guarda che prima o poi, secondo me, è quasi necessario. È quasi ti assicuro, anche sai, io vengo dalla campagna, non sono. Ma che c'entra? In campagna non si inchiappettano in campagna, scusa, è pieno dei froci pure in campagna. Dai, ti dico, sono alla moda vecchia, come si dice da noi. Sei alla moda vecchia, cioè sei alla moda vecchia. Vabbè, io voglio capire una cosa, però, caro Joe, Parenzo, anche tu ti sarei posto questo interrogativo, cioè questa domanda te la sarai fatta, no? Come si fa ad applicare una tassa sui gay? Parenzo, è complicato, no? Ma è una buttata, è una follia, è una stupidaggine, una provocazione. Cioè, dai, tu metteresti una. Non è una stupidaggine, dovevi vedere in che contesto è stata messa. No, ma lascia perdere, spiegamela, come la metteresti questa tassa? Ma insomma, allora, se metà della popolazione, perché si è arrivati a lì, no? Se metà della popolazione è omosessuale e quindi non può generare bambini, siamo quelli che non possono generare bambini per aiutare quelli che possono, perché altrimenti già gli italiani non fanno più figli. I gay devono continuano pagare. Ad arrivare extracomunitari, qua, ciao. I gay devono pagare, tu dici. Hanno da pagare. Con le premesse fatte prima, vabbè. I gay devono pagare. Il fatto di essere gay è una cosa contro l'evoluzione della società, tu dici, perché non possono avere figli, non possono progredire. No, è contro il mantenimento della specie, è natura questa qua. Non è che sono contro il mantenimento. Due rinoceronti maschi non fanno un rinoceronte piccolo. Due rinoceronti maschi non fanno un rinoceronte piccolo. Beh, sì, come. Ah, tu dici, vabbè, anche due. Cioè, tu dici Luxuria e il famoso politico di centrodestra con cui sono stati amanti non possono fare figli. Ecco, non fanno bambini. Non e fanno... noi abbiamo un estremo bisogno di bambini. Sì. Perché non ce ne sono più. Dunque, è un delitto essere gay. Non è un delitto. Beh, però, sì, tu dici, è un crimine contro l'umanità, allora, contro l'evoluzione della specie. No, non sto attaccando i gay. Io ho amici e colleghi gay a cui voglio bene. Però dico, se ci arriva un punto dove i gay sono più degli etero, bisogna tassare. Tasseremo i gay per fare agli etero più bambini. Ma è matematica questa. È matematica, ma che tassa metteresti? Che tipo di tassa metteresti, Joe? No, gli fai pagare un tot al mese e tipo i bambini quanto? Asili fai, ma non lo so, dipende dalle percentuali. Io di solito faccio i numeri, no? I numeri, sì, appunto. Allora, vediamo quanti ce ne sono e quanti bambini. Ma è difficile fare un censimento dei gay. È come, brutto così. Ma no, come fai a fare un censimento? Come fai a fare un censimento dei gay? Scusami. Allora, io do diritti a tutti, però questi diritti vanno a braccetto con dei doveri. Ma non li dà lei i diritti a tutti? Ma cosa sta dicendo? Ma guarda che il danno di immagine che lei sta arrecando alla sua città. Ma perché ci vorranno generazioni per ripulire quella città dall'immagine che ha? È una cosa incredibile. Ma là, che è il più è bel paese che esista. Ma sì, il paese sicuramente. Perché non vieni, ma vieni a trovarmi ad Albettone? Ma quanti gay ci sono? Adesso che faremo la festa della gnocca, vieni a trovarmi ad Albettone, sarai ospite d'onore. Che cosa fai, scusa? con Sgarbi facciamo la festa della gnocca, fare sta qua cosa, dal Bettone, no? La festa della gnocca dal Bettone. Ma non con soldi pubblici. Ma sì, immagino di sì, con i soldi del comune. No, ma troviamo gli sponsor, c'è ancora gente che è la moda antica come il sottoscritto. Sì, però io voglio capire una cosa, amico mio, come si fa? Ognuno si deve presentare dicendo sono gay, come fai a capire se qualcuno è gay o no? Anche dal Bettone in un posto piccolo, come fai? Spiegami. Io ti voglio anche dare retta, cioè non sei una follia. No, ma allora la mia frase è stata estrapolata. Ma no, ma lascia perdere, generale. Ho capito. Ma lo so, lascia perdere. Adesso in due parole, come faccio a dirti, come faccio a individuare i gay, eccetera. Come si parlava di metà della popolazione gay. Se c'è metà della popolazione, vuol dire che ogni 25 anni, 30, perdiamo un quarto della popolazione. Cioè, allora, è quasi un crimine essere gay. Lo stai dipingendo come un crimine. Non è un crimine. Un crimine contro gay. L'evoluzione della specie, contro l'evoluzione dell'umanità. Così è. Cioè, allora, non è un crimine, ma non dobbiamo neanche difenderli a spada tratta o insegnare a scuola che non c'è differenza di sesso o dire che si possono. Ma anche secondo fare te, omosessuali? Vabbè, se fare esperienze omosessuali, quello si può dire. Cioè, essere gay cosa vuol dire? Quello si può dire, dai, su. Cioè, io vorrei fare. Ai bambini di 6 anni. Perché no? Non organizziamo, Parenzo, perché non organizziamo una specie di gay Pride dal Bettone? Ma no, gay pride, no, ma una specie di giornata, portiamo un sacco di froce dal Bettone. Questo Parenzo sarebbe un segnante di civiltà. Ma io sto ancora aspettando, io da Parenzo sto ancora aspettando i nomadi, che aveva detto che veniva a luglio a trovarmi, siamo poi in settembre domani. Da luglio ho avuto poi degli impegni di lavoro, ma stai attento che accadrà molto presto, guarda. Senti, dove sono queste carovane che dovevo aspettarmi a luglio? Sì, tutte chiacchiere, tutte chiacchiere. No, tutte chiacchiere le tue. Presto, senti, che presto faresti al tizio ivoriano che è stato bloccato in provincia di Catania qui per l'uccisione di quella coppia? Ve l'ho detto già altre volte. No, per certi casi sarei per la pena di morte. Ah, pena di morte, eh? Cioè l'ivoriano ha preso pena di morte, cioè ha sgozzato quello, ha buttato la signora dalla finestra. Compost per i fiori. Dunque, al signor ivoriano di 25 anni, che peraltro ancora non è incriminato, ma comunque sembra sia stato. Quando sarà incriminato, perché. Cioè, pena di morte, subito, pena di morte. Immediatamente, via. No, perché già li manteniamo, che andiamo a mantenerli anche in carcere, che invece di 40 euro al giorno ci costano 400. Sì. Scusa, e un italiano? Ma è la stessa cosa, come si fa a uccidere due anziani per portargli via un computer? Ma anche se fosse mio figlio, ma non è impensabile una cosa del genere. Pena di morte, vabbè, quando vedi dei bambini morti in mare come in questi giorni, hai un moto di pietà? Cioè, no, perché io ho pianto, mi sembra, ho anche pregato, te lo giuro. Ma dai, pianto, dai, su, hai pianto. Giuro. Tu che piangi, guarda, non me lo vedo. Ma ascolta, tu che piangi non esiste, dai, no, su. Te lo giuro, perché allora ragazzi, ho però pianto e ho pregato per loro, ma sai perché? Perché? Perché non è possibile che si arrivi a fargli fare quella traversata lì e a farli morire in mare. Aiutiamoli di là, nessuno non vuole aiutarli. Vabbè, d'accordo, aiutiamoli di là, la solita cosa. Ma tu che ti sei messo a piangere? Cioè, Parenzo, allora tu te le immagini morire in mare, continuiamo a farli d'accordo morire in mare se non va bene. Davide, tu te le immagini Gio Formaggio che si mette a piangere e pregare per neanche, se lo vedo penso a un fotomontaggio. Ti assicuro, se lo vedo, penso a un fotomontaggio, anche se lo vedo di persona proprio. Eppure è così. Perché gente che sostiene questo non può avere nessun tipo di umanità, non è possibile. Ma cosa faresti tu a Livoriano che ha ucciso i due signori? Ma come, non ci sono le leggi per punire Livoriano? Ma ci sono le leggi italiane che sono severissime. Dopo lo dichiariamo incapace di intendere e volere, fra un anno è fuori. Non dichiari incapace proprio nessuno. Certo, non introdurrei la pena di morte apposta per questa persona che ha commesso questo crimine. Ma qualcuno ci sarebbe bene. Io non ho capito, allora le associazioni gay sono furibonde con te, Formaggio, per questa cosa. Ma non li avete offesi? Ma vuoi tassare i gay? Ma com'è possibile una cosa del genere? Dai, su. Ma vuoi tassare i gay perché dici che non fanno aumentare la popolazione italiana? Perché dici sono un ostacolo all'aumento della popolazione italiana? Ma dai, su, ma è una cazzata pazzesca. No, io ho detto che tassiamo i gay. Vabbè, ho capito, quello hai detto. Per aumentare la popolazione italiana degli etero, basta. Ma ho capito, ma non è così che si fa. Due gay avranno mai un figlio? Vabbè, ma ho capito. No, ma non avranno mai. Lo possono adottare, per esempio. Sì, ma chi è che lo fa? Un etero? Vabbè, lo farà un etero, sì, certo, un etero. Comunque. Ma allora, se cominciamo. Guarda che è pieno, guarda che tra l'altro. Luteri in affitto e menate sì, però, vari, andiamo nel, vabbè, nel mostruoso. Non parlare di cose complicate per te, però allora. Ecco, andiamo nel mostruoso. Scusami, Joe, mostruoso o meno, devi sapere che un sacco di gay fanno i figli lo stesso. Cioè, ci sono un sacco di gay che hanno avuto figli o fanno figli anche con donne. Certo. Ma è pieno, io conosco un sacco di gay che hanno fatto figli con donne e poi sono diventati gay. Io comunque hanno scoperto di essere gay. Perché in realtà, come sai, la bisessualità, caro formaggio, se vuoi te lo insegno, la bisessualità maschile sostanzialmente non esiste. Ecco, allora faremo metà tassa per chi ha avuto dei figli. Cioè, vedi che... e tassa a metà, hai trovato la soluzione. Allora, vi lascio con questo interrogativo. Secondo voi la bisessualità maschile esiste? No, non esiste, Parenzo, la bisessualità. Cioè, uno a un certo punto... La... No. Bisessualità maschile. Cioè, tutti quelli che dicono di essere bisessuali mentono spudoratamente. Cioè, no. Cioè, chi è bisessuale fondamentalmente gay, questa è la sostanza, cioè non esiste. Direi. Sì, mentre per la donna è un po' diverso. Vabbè, tanto sentiamoci al giornale radio, oppure sentitevelo, non lo so, fate un cazzo che vi pare, ci sentiamo dopo. Mi siete mancati. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Zanzara. Che faremo la festa della gnocca, vieni a trovarmi ad Albettone, sarai ospite d'onore. No ragazzi, la festa della gnocca no, eh. La festa della gnocca no. Allora, follie animaliste, ho letto un sacco di follie animaliste, a parte che volevano fare una specie di invasione durante l'estate della tua Siena, Parenzo. Sì, ma anche alla festa dell'unità ho letto che c'è stato un assalto. Bah, siamo veramente... Un assalto alla salamella c'è stato, da parte dei vegani. Ti rendi conto a che livelli di estremismo siamo arrivati? Tu pensa che i poveri animalisti, io li chiamo così, i poveri animalisti, se la sono presa con una signora, con una gentile signorina di Vimodrone qui vicino Milano. Cioè, signorina, è una che ha oltre 60 anni, una vecchiettina, la quale che cosa ha fatto? È molto affezionata ai suoi gatti e una volta morti questi gatti, cioè non è che li seppellisce, li ha congelati. Sì, bellissimo. Li come? Ha congelati. Questo e, me l'avevo visto. E poi li mette li fa li come si dice? Ah sì, ne fa delle... No, delle polpette? No, delle polpette... L'imbalsama, l'imbalsamava. Ah, vabbè, ma quelli sono come i trofei. Ma l'hanno denunciata per maltrattamento degli animali. Ma scusa, questa è talmente affezionata agli animali che una volta che i gatti gli crepano, le crepano, perché più volte succede, naturalmente i gatti muoiono, questa insomma, alla sua età, questa li mette nel frigo, li congela. E poi l'imbalsamo. E qual è il punto? Anzi, dovrebbero farle un monumento. Adesso che uno fa quel che vuole. I carabinieri sono andati lì, hanno scoperto questi gatti congelati. Questo ha spiegato. Beh. Guarda che io però poi ne faccio una specie... No, ne faccio delle statue. Beh, però qualche problemino c'è. Adesso, ognuno faccia quel che vuole a casa propria, non ha ucciso nessuno, quindi va bene. Però... Che anche questo sia considerato normale. Adesso. Ma perché non è normale? No, se tu consideri anche questo, avere dei gatti surgelati in freezer. E poi io non credo che sia normale, ma magari mi sbaglio io. Guarda. Io vorrei abbracciarla fortissimo, questa 61enne, che però non è nemmeno troppo anziana, 61 anni è giovanissima. Una signora di Vimodrone, dunque, che abita a Vimodrone e conosce questa storia, ci dia subito il numero di telefono e indirizzo di questa signora. Perché è stata vessata da un'associazione che credo che si chiami Meta, Movimento Etico Tutela Animali. Figuriamoci, denunciata per avere congelato dei gatti, ragazzi, dai. Ti prego. Feltri contro Alemanno sulla vicenda di Mafia Capitale. Prendiamo un po' di roba da in onda, il programma che conduce Parenzo. Dai, Feltri contro Alemanno, perché ti tenevi Buzzi tra i coglioni? Sei così contro la mafia, così contro il malaffare, eccetera, eccetera. E d'altra non è che abbia tutti i torti, Vittorione. Abbiamo abbiate pazienza. Ma Buzzi, lo dovevamo controllare noi giornalisti o il sindaco, l'amministrazione? Ma chi questo, ma lei non sto dicendo questo. L'ho assunto Alemanno. Ma io non l'ho assunto nessuno, ma gli sta dicendo Feltri, tu. Ma perché te lo tenevi fra i coglioni questo qui? Perché te lo tenevi lì se sapevi che era un mascalzone? Abbi pazienza. Ma la risposta l'abbiamo data prima. Scusa, Buzzi non era un dipendente, comunale, non era mica il mio collaboratore. Buzzi era il rappresentante più grosso consorzio delle cooperative sociali su Roma. È scattato il bestemmione alla fine, no? Che stava dicendo Vittorione? No. Questo non l'ho sentito alla fine. Allora, Gabrielli, che è, come sapete, è il prefetto, che non dico che è il commissario di Roma, ma quasi. È il sindaco. È il vero sindaco, diciamo. In questo momento, cioè, se dice una parola Gabrielli contro Marino, No, ma anche perché Marino non c'è, quindi chiaramente... È tornato poi dalle vacanze o no, Marino? No, torna il 2, afferra il 2, sì. E il 3 parteciperà a questa manifestazione alla quale forse anche tu prenderai parte, del PD contro la mafia. No, veramente non me ne può fregare di meno, anche perché... i tuoi nomi, tra le persone. No, però scusami, devi adesso, dimmi la verità, fare le manifestazioni contro la mafia ha un senso? Dimmi se ha senso. No, anche tu, non ha nessun senso. Allora, no, poi soprattutto il 3 settembre, no, ma ti pare normale che dopo tutto quello che è successo a Roma il sindaco è ancora in ferie? Ma non è possibile una cosa del genere. Giustamente signor Gabrielli, il cui ruolo è tutto da discutere, perché non esiste questa Roma bicefala, no? una città amministrata sostanzialmente da due persone, che il PD non ha il coraggio di sciogliere il consiglio comunale perché pensa di poter perdere le elezioni. Questa è la realtà. C'è il giubileo anche. Vabbè, sì, ma non possiamo, ma possiamo dipendere dal Papa noi nell'amministrazione di una città. Che dal Papa, dal fatto tutto quello che porterà il giubileo. Sarà un commissario che gestirà i rapporti col Papa. Meglio un commissario piuttosto che il casino. Scusa, meglio uno che comanda, che ha rapporti col Papa o con le tonache o con i prelati o con i cardinali, piuttosto che mille persone. Scusami. Allora, Gabrielli dice: io ho sentito Marino, però tra un'immersione e l'altra. Beh, stupenda questa, devo dire. L'assenza del sindaco Marino Ma noi è già da quel dì che facciamo riunioni, quindi lo sente il sindaco? Tra un'immersione e l'altra. Beh, devo dire che l'ironia di Gabrielli tra un'immersione e l'altra è stupenda, perché è una specie di epitaffio, no? Sì, il sindaco lo sento, certo, tra un'immersione e l'altra, cioè quando si riprende dall'immersione, quando fuoriesce dai Caraibi o dove il cazzo è, arriva e parla con Gabrielli, dai su. Ma non è una situazione sostenibile. Ma Roma non è Albettone, no? Cioè, se se ne va Gio Formaggio da Albettone non succede nulla. Ma uno non può andare via un mese. Adesso non so quanto sia andato via. No, due settimane. Vedi, qui 12 giorni. Ma non si può, non si può. No, c'è dubbio, non c'è dubbio. Non si può col casino che è successo, non si può. E poi se uno va via, va, che ne so, in posti irraggiungibili, no? Non è che va dall'altro capo del mondo. Questo è quello che dice Rutelli, ad esempio. Ma ha ragione Rutelli. Ma ha ragione Rutelli. Se tu devi fare una vacanza, vai ad Anzio, vai con l'ombrellone come faceva Alberto Sordi, ad Ansedonia, non so dove. Vai a Sabaudia, località raggiungibili, e non è che puoi andare in posti dove Gabrielli vuole parlarti e tu sa, no, sto facendo un'immersione. Ma il sindaco non fa le immersioni, le fa ad Anzio, ad Ansedonia, a Sabaudia, a Ponza, posti vicini. Andiamo a Bologna, Franco, 800 24 00 24. Franco, buonasera, bentornati, un piacere di sentirvi. Vai, dimmi. Ok, ma che succede qua? Che sei a immersione pure te, stai a fare, Franco? Ti sei immerso pure te, Franco? Vabbè, Raffaele da Brindisi, dai, richiamatemi Franco, Raffaele. Sì, buonasera. Vai, dimmi. Niente, volevo dire, Lorenzo, ma i neuroni li ha lasciati giù nel Salento quando è andato in vacanza? Perché... No, veramente non è andato in vacanza a luglio nel Salento. Dunque... È andato a luglio. Vabbè, perché che ha detto stavolta? Che ha detto? È cominciato ammorbidendo sempre tutto quello che fanno gli immigrati, cioè quell'omicidio non erano un granché. Si è dimenticato quel 3 milanesi con il piccone. Si è dimenticato il tabaccaio sgozzato vicino alla figlia, si è dimenticato quelli dentro agli appartamenti. Cioè, che cosa devono fare altro perché poi diventano efferati questi delitti? E poi io sono andato ferrotandiere, mi stai guidando mi hanno minacciato direttamente perché gli stavo chiedendo il biglietto, siamo veramente alla frutta. Sì, anche gli italiani minacciano quando gli chiedi il biglietto ogni tanto. Uno che si è un immigrato, quando noi siamo stati all'estero abbiamo fatto sempre i garbati. Ma un immigrato che ti dice tu devi guidare, tu devi fare solo guidare, non devi chiedere biglietti. E ho chiamato la finanza. Che dovevo fare? Ma scusami, ma stai guidando adesso? Che stai facendo? No, io sto fermo adesso. No, sentivo uno sferragliare di qualcosa. Vabbè, il traffico che mi passa vicino. Ma di dove sei tu? Di Brindisi? Dov'è che fai il guidi gli autobus a Brindisi? Sì, a Brindisi. E beh, che succede la notte? Ma che stai facendo sento un casino? Non era la notte. Io stavo facendo la navetta al porto, sono saliti questi tre colore che sono stabili qui a Brindisi, e gli ho chiesto il biglietto. Sì. E mi hanno detto, prima con arroganza mi hanno quasi spintonato, sono andati dentro. Sì. Poi al mezzo ha detto il biglietto sono scendete. E questo è, tu devi fare l'autista, non devi chiedere i biglietti, fai il lavoro tuo, perché se tu fai il tuo lavoro ti pagano lo stesso a te. Ma siamo obbligati, oltre a controllare se hanno i biglietti, anche a venderglieli alle persone che non hanno la possibilità di comprarli, no? Va bene, ho capito. Poi. Ciao, Gennaro da Salerno, vai Gennaro. Eccomi, bentornati, dico la mia rapidissimamente. Io se la signora si candida al voto e dico a chiunque di votarla, la signora. Cioè tu dici vuoi votare la signora, com'è che si chiama? La voglio votare, ma sicuro la voglio votare un sacco di italiani. Cioè la figlia dei due, la figlia di quella coppia di provincia di Catania che è stata uccisa, che ha fatto un vero e proprio programma politico oggi, diciamo la verità. Io sono il primo che la voto e penso che perché Parenzo dice bisogna capirla perché ha esternato il governo e tiene conto della volontà dei cittadini, non dice che governa e se ne frega se perde voti. Io voglio sì rappresenta la volontà dei cittadini che hanno paura e sono stufi. Per cui stai dicendo che quando dice che la colpa dell'uccisione dei suoi genitori è dello Stato, certamente sì. Ha ragione. Certamente sì, perché abbiamo rassicurato una situazione di un ben modi che non c'è, vengono dovunque, ci siamo isolati rispetto al resto d'Europa per stare presso aver dietro a delle strane stranderie di uno Stato estero che praticamente di fatto ci occupa, non dico quale. Questa è la situazione. La signora ha sacrosantamente ragione. Noi vogliamo essere difesi dalla Chiesa, non abitati dalla Chiesa al momento. Ho capito, però la colpa è dello Stato che crea i centri per l'immigrazione. Se poi uno esce, ammazza. Non che crea, che non li sa gestire. Che si arriva a prendere chiunque venga, per cui ne viene una moltitudine incontrollabile. E poi la colpa è dello Stato, assolutamente sì. Assolutamente Franco sì. Da Bologna l'abbiamo recuperato. Sì, hai ragione pure tu, Parenzo, non li sa gestire. Però diciamo la verità: se non ci fossero questi centri. Mettiamoci d'accordo, non si vogliono i centri di permanenza quando arrivano. Adesso sembra che non si voglia, cioè non li vogliamo. Bisogna rimandarli indietro, non vanno bene i centri d'accoglienza, cioè ma di cosa stiamo parlando? No, ma i centri d'accoglienza tutto il dibattito può diventare. Ho capito, però questa roba qua. Questo come è potuto uscire? Di una signora, perché può uscire liberamente questo qua? Perché può uscire liberamente? Questo è il problema. Ma è il problema, certo. Ma no, adesso perché far diventare il dolore di questa persona che lo esprime come ma l'ha fatto diventare lei, è stata lei a sfruttarlo subito, a dirlo subito, a sfruttarlo, a farlo diventare un caso politico questa volta. Ma ha detto lei che è stato lo Stato, la colpa è dello Stato che dà troppe cose a questi, prima gli italiani, peggio di Salvini. Vabbè, ho capito, può dire qualunque cosa. Vabbè. Ma sì, ma io non saprei, cioè non potrei condannare per. Ma ha detto delle parole indubbiamente gravi e forti, ma che deve. Ma non si può condannare lei, si devono condannare quei politici che invece di risolvere la questione, sì, ma in primis. Ma è lei che ha creato un caso politico. Tu sai, perché lo hai detto in apertura di questa trasmissione, perché leggi sempre tutto, che il Tara Di Mineo è nei verbali dell'inchiesta di mafia capitale. Sì. D'accordo? Sì. Chi d'accordo? Era, e questo è il punto, fine. Quindi d'accordo. Non è che c'è adesso cosa facciamo? Chiudiamo tutti i centri? Chiudete i centri di accoglienza. Chiudeteli. Fermi tutti, pubblicità. Parenzo, curalo Parenzo. Insomma, curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due. La Zanzara. Guarda che c'è gente strana in giro. I know you've been out running, when you've done all your running, run to me. I know you love your loving, and when you're done with all your loving, come to me. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. My sweet Louise, sweet, sweet, sweet Louise, my sweet Louise. la pacata reazione di Matteo Salvini alla vicenda di Catania con la coppia uccisa. Sentitelo, Radio Padania. Questo centro di Mineo, questo fottutissimo centro di Mineo, nel quale tu sei stato più di una volta, ricordiamo. Ci sono stato 4 volte. A me inizia poi a dar fastidio che arrivino in ritardo a dare ragione a quelli della Lega dopo qualche mese o dopo qualche morto. Va chiuso, andrebbe sigillato domani mattina con tutti quelli che ci sono dentro, italiani o stranieri che siano, perché è un business da quasi 100 milioni di euro. Paghiamo l'albergo a masse di delinquenti. Il problema è che noi stiamo mettendo in albergo a spese degli italiani gente che non scappa da nessuna guerra, ma sono una massa di delinquenti. Noi stiamo pagando tranquillamente il soggiorno a una massa di delinquenti, non di profughi o qualcos'altro. Questo è. Allora andiamo a Ferrara, Paolo, vai. Paolo. Paolo, ragazzi, su, dai, Paolo. Niente, Franco da Bologna. Bologna, sì. Vai, Franco, dimmi. Ciao, scusate, prima era saltata la linea. Volevo intervenire relativamente al discorso della domanda sulla bisessualità che hai fatto prima, sì, della, sì, pubblicità. Allora? Allora, per quello che riguarda, per conoscenza diretta con uomini e donne che sono bisessuali, io posso dire... Cioè, conoscenza diretta tua? Non ho capito. Sì, mia, perché io ho 44 anni e da quando ne ho 16 che conosco sia donne che uomini che sono bisessuali. Cioè, sei bisessuale anche tu? No, io no, io no. Sono, cioè, squalidamente, semplicemente etero. Sì, diciamo. Non ho capito, allora, perché Parenzo sembra un po' la voce di Grillini, No, no, non sono Grillini, tranquillo, non sono Grillini. È un Grillini un po' più vispo, dicevo, un po' più giovane. Vabbè, io non ho capito una cosa, Franco, per esperienza diretta, vabbè, tutti abbiamo esperienza diretta. Amici, allora, nel senso, io conosco delle donne che sono andate con uomini e con donne, sì, e per quello che riguarda le donne posso dire che c'è un 50% circa di quelle, sì, che conosco, che una parte dopo è diventata lesbica e una parte è diventata etero, nel senso che hanno scelto uno dei due generi con cui andare. Vabbè, guarda che e esistono quello... casi di persone che rimangono bisessuali, cioè che vanno a voile e a vapeur, come sono, si dice. D'accordo, però per quello che riguarda gli uomini volevo far presente che c'è una differenza sostanziale, cioè? Perché contrariamente alla donna, che la donna non avendo chiaramente un membro maschile è un po' più, tra virgolette, se vogliamo, limitata, mentre l'uomo invece può fare la parte attiva e passiva, logicamente senza considerare degli strumenti strani, cose, limitandoci alla fisionomia umana, per intenderci. Lei è un professore, cioè un cultore della materia, cos'è? Cioè, espone anche dei dati. Un seguace della Nappi. Un seguace della Nappi, siamo tutti seguaci della Nappi, dunque, cioè, dunque siamo sulla stessa barca. Vabbè, allora non ho capito, adesso non stiamo facendo una dichiarazione pubblica. Cioè, quindi non è... assolutamente, per allora, quello che riguarda gli uomini. Non esiste la bisessualità maschile, non esiste. Sono d'accordo. Ma esiste in rarissimi casi, a un certo punto si risolve nell'omosessualità, perché non è così. Non sono d'accordo, no, e se vuoi ti posso spiegare, Giuseppe, in che cosa non sono d'accordo. Vabbè, spiegami velocemente, per carità. Velocemente, vai. Certo, perché per quello che riguarda, sì, l'uomo bisessuale che sostanzialmente va con una donna e un altro uomo, sì, il più delle volte, non sempre, ma il più delle volte, perché è bisessuale passivo, allora in questo caso ci sono molte probabilità che diventi omosessuale. Per quello che riguarda l'uomo che invece va, che ad esempio, con una donna e un trans, in vabbè, quel caso non specifico sempre, ma molto spesso ci va per fare la parte attiva, perché è chiaro che tra due, vabbè, uomini e una donna c'è molto più, anche però, trans, adesso al di là dei casi singoli, la bisessualità maschile è molto rara. È molto rara, perché la maggior parte delle volte si risolve in omosessualità. Poi vi citerò un mio amico abbastanza conosciuto, senza fare il nome, che ha scolpito con una sua frase le sue esperienze. Allora, abbiamo recuperato Paolo da Ferrara, vai Paolo. Paolo? Pronto? Dai, dimmi. Sì, ciao, dimmi. Ciao. Allora, io volevo intervenire sul sindaco di Veneto, adesso non mi ricordo come si chiama. Sì, Formaggio. Esatto, Formaggio, bravo. Allora? Che diceva che in un mondo in cui si va verso il vabbè, vuole tassare i gay, vai, forza Paolo, esatto, su, veloce, dai. Esatto. Allora? Scusa, sono d'accordo su questa tassa. Cioè, sei d'accordo per tassare i gay? Sì. Parenzo, chiami tu o chiamo io? Non ho capito. Capisce che è una cosa che non esiste. Ma non può esistere. Non può esistere in alcun modo. Cioè è un gioco, è una provocazione, è una certo cosa detta così. Certo, ma sono d'accordo che è una provocazione, ragazzi, ma lo so, però, sono intelligente abbastanza però, per capirlo. Però in un mondo ideale, mettiamo che arrivano veramente a un 50%. Ma non esiste, ma che vuol dire? A me questa cosa mi fa impazzire. Mettiamo che arrivano al 50%, ma che significa? Che è mica l'epidemia? Cioè, non è che c'è un'epidemia che si allarga a macchia d'olio, come può pensare qualcuno, magari anche l'amico professore avvocato Taormina. Non è così, non c'è nessuna epidemia. C'è un numero. No, ma lo so, Allora tu dici, per preservare la specie, siccome dobbiamo essere come io, conservativi, dobbiamo essere anche, dobbiamo cautelarci, tassiamo i gay. Ma che vuol dire poi la tassa? Cioè uno si dichiara, sono gay, dunque pago più tasse perché devo mantenere la specie, perché non posso procreare, ragazzi. Paolo, ma tu sei da ricoverare sul serio? Ma sei da ricovero serio? Cioè non per finta, ma da ricovero? Cioè, Formaggio ha detto una cazzata pazzesca, e poi per carità è divertente, simpatico. Tipica, diciamo, dello statista. Tipica dello statista, vabbè, diciamo. Comunque, ha detto una cazzata e tu dici Padano. No, tu invece, tu dici no, ha ragione, perché in realtà per salvaguardare la specie, ma dai su Paolo, Giovanni sì, da Brescia. È un qualcosa che l'uomo deve pagare perché la lesbica no. La lesbica no. Ma no, uomo donna, nel senso ah, l'uomo. Di gender. Vabbè, dai, Giovanni da Brescia, dai. Pronto. Vai Giovanni, dimmi. Pronto, volevo intervenire riguardo alla signora che mette i gatti nel frigo, nel freezer. Sì, questo è importante. Questo è fondamentale, dimmi. Questo è importante. Voi mangiate la carne? Noi mangiamo la carne, sì. Beh sì, non siamo contro la carne. Non la surgelate? Non la surgelate? Sì. È un po' diverso però, beh, non mi insomma, convince. Congelare il gatto per poi imbalsamare... Cosa cambia, scusi? No, ma io sono a favore della signora, tra l'altro. Cioè, può tranquillamente congelare il gatto e poi imbalsamarlo. Ma sì, chi se ne fotte? Però questo sia sì, considerato sì, può farlo, normale. Però la mia era una contesta riferita a chi mangia carne, capito? Ma che c'entra mangiare la carne con i gatti? Scusami, Giovanni, abbi pazienza. No, perché voi avete... detto che praticamente è una cosa non normale. No, lo dice Parenzo, per me è normale. No, normale, lo trovo curioso e strano, ecco. Io non conosco amici che surgelano i loro gatti. No, morti. Quello nemmeno io. Però nemmeno. Poi dopo, siccome rispetto le tradizioni di chiunque, se un domani dovessi scoprire che Cruciani, che so, aveva un coniglio, il coniglietto della figlia, dell'adorabile figlia, no? C'è un coniglio bianco, la figlia di Cruciani. Muore. Se un domani, esatto, dovesse surgelarlo, un po' strano mi farebbe, dopodiché gli vorrei bene lo stesso, anche se congela o surgela il coniglio, che sia chiaro, però ho il diritto di ritenere vagamente strano che una simpatica signora di 60 anni conservi in un freezer i suoi gatti morti. Ma ho questo diritto o sono strano io? E invece io, per Giovanni è normale. No, perché lei non può considerarlo strano perché lei mangia carne, perciò tra un pollo ma e un gatto. Ma che c'entra? Ma scusa, però Giovanni, perché avete detto anche l'attacco dei vegani. Ma che c'entra adesso? Giovanni, scusa, tu sei un simpatico giovane bresciano. Adesso congelare i gatti e mangiare la carne non è la stessa cosa. Cioè congelare la bistecca e per poi mangiarsela e congelare un gatto per poi imbalsamarlo, dai, non è uguale. Scusa, no, un vegano è più, per gli occhi di un vegano è più. Ma che me ne frega a me del vegano? Già fa schifo un animale morto. Immagini a mangiarlo. Vabbè, capito. Giovanni, ho capito. Federico non è una cosa normale, ho capito. No. Federico da Milano, ho capito, Giovanni, Federico da Milano, vai. Sì, innanzitutto volevo dire che la settimana scorsa mi siete mancati, quindi bentornati. È 4 settimane che 5 settimane. Sono tornato dalle ferie settimana scorsa, per me era Ero in crisi d'astinenza, quindi bentornati a tutte e due. Vai. Una cosa veloce, io volevo tornare sul caso dei due di Catania. Per carità, una tragedia terrificante, non voglio mettere... Però lo stesso giorno c'è stato un immigrato ucraino che ha lasciato per mano una bambina di 2 anni e si è fatto ammazzare per andare a sventare l'italianissima rapina italiana. Sì, sì, ma tutti quanti, quindi, infatti, quindi tutti, voglio Federico, dire, cioè, non mi sembra criminalizzare, però, come dire, generalizzare. A parte che sono criminali due criminali e ci sono ci sono anche le brave persone. Guarda Federico, allora, innanzitutto i giornali, la stampa, i media, le televisioni, radio hanno esaltato il caso di questo ucraino. Va benissimo, è perfetto, per carità, ma sono due casi molto diversi. Qui c'è una situazione di un centro di accoglienza che fa acqua da tutte le parti e purtroppo per due signori, per due anziani, Erika e Omar. Ma che c'entra Erika e Omar? Ma sono cose diverse, dai. Volevano dare la colpa. Ma sono cose diverse. Che vai a scatenare la pancia della gente perché sono brutti, sporchi e cattivi, allora sono criminali. Ma scusami però Federico, ho capito, ma se uno arriva in Italia da clandestino, sta in un centro, fa il cazzo che gli pare, esce come vuole, il centro non è gestito e in più esce e ammazza due anziani, c'è qualcuno che si può incazzare o no? Si ha il diritto di incazzarsi o no? In particolare se si è parenti di quei due signori. Questo o no? Poi quello ha fatto una dichiarazione politica, ma sono due casi diversi. Quello che trovo pericoloso è la generalizzazione. Ma non c'è nessuna generalizzazione. Ma no, ma perché poi la gente usa le scorciatoie del cervello e dice allora sono tutti così. Invece no, bisogna dire che ci sono sia i criminali come ci sono degli italiani criminali, e se per me, io penso che a me... Scusa, ma l'importazione dei criminali però... Lo Stato italiano piuttosto che qualche immigrato... Figura, siamo d'accordo che lo Stato italiano ha fatto più danni di un immigrato, degli immigrati, e questo non c'è dubbio. La rapina delle tasse, eccetera. Il capo espiatorio, ma per carità, è un criminale, sarà gestita la cazzo sto centro, per carità siamo tutti d'accordo, ma quello mi dà fastidio è la tendenza alla generalizzazione. Ma la generalizzazione, uno potrà essere, come dire, potrà pretendere dallo Stato che non importi i criminali o no? Cioè questo è il punto fondamentale, poi è chiaro che qualcuno può scappare, un criminale ci può sempre essere. Penso che sia quello, cioè adesso io... Allora fermo lì. Allora, Davide, io prima che tu parta, prima che tu vada... Non è che vado via, sono sempre qui, ma poi ci risentiamo domani. Sì, certo, no, proverei a chiamare però la signora che abbiamo chiamato in causa, la signora Solano. Solano. No, non quella degli altri. No, la quella dei gatti purtroppo ancora non abbiamo il numero. Stava oggi solo quella storia lì. Sì, lo so, hai ragione. Quella che va a me è una drammatica storia. A me lo dici, la voglio abbracciare fortissimo. La signora è una drammatica storia della persona che ha... La signora che congela i gatti è fantastica. La vorrei... È l'unica storia. Dai, è l'unica cosa che c'è oggi che merita di essere approfondita e merita anche di essere conosciuta la signora. Perché mi pare sì, assolutamente. Cioè, perché lei congela i gatti? Questa è l'unica domanda che io oggi, davvero, da questa mattina alle 7:30, quando mi sono svegliato, è l'unica domanda. Ma se non lo sapevi. Ma se te l'ho detto io, ma da quando me l'hai detto, io da domattina alle 7:30 mi sveglio, darò il latte al bambino alle 7:52, farò la doccia e mi interrogherò tutto il giorno su questa cosa della signora che congela i gatti e mi chiederò se è normale anche, me lo chiederò. Allora andiamo a Pordenone, Claudio. Sì, ciao, buonasera a voi. Io ho telefonato perché io vi ascolto spessissimo. È veramente insopportabile. È insopportabile, anche se purtroppo sono masochista, sentire Parenzo quando lui fa le sue continue lezioni di vita alle persone. Lui, il suo pensiero dovrebbe essere il più giusto. Che è successo stavolta? Che è successo? Ma di tutto, ma dai gay agli immigrati, alle pene che da comminare, qualunque cosa. Ma io mi domando, ma lo tenete apposta per fare il provocatore o perché ci credete in quello che dice? Ma non ho capito, nel concreto che cosa ha detto però, perché poi non generalizziamo. Intanto per la pena di morte, io per persone che compiono quel tipo di delitto come ha compiuto quel nigeriano, come il Cabobo, o come i due albanesi a Gorgo Monticano qualche anno fa, che hanno massacrato per ore una coppia di anziani per fargli dire dov'era la cassaforte. Ma io veramente la pena di morte per me è il minimo. Cioè, perché come si fa a conservare in vita persone che non sono persone ma sono animali? Però Claudio, scusami un attimo, uno ha anche il diritto di essere contro la pena di morte, altrimenti... Io sono contro la pena di morte, che devo fare? Mi dispiace. Ma lui non è solo contro la pena di morte, lui è contro tutto, lui è contro il buon senso. Dipende, tutto. Parenzo è contro il buon senso. Ma veramente è il contrario? Il buon senso tante volte dice che essere permissivi e buonisti peggiora la società. Non c'è nessun buonismo. E la società, se noi vogliamo avere una proiezione... Sì, però l'unica soluzione, secondo te... eliminare le cellule malate. Eliminare le cellule malate. Dunque, mi stai dicendo... Vediamo se è vero quello che no, sto, mi stai dicendo che l'unica ti sto ascoltando Claudio, tu mi stai dicendo che è una roba civile uccidere l'ivoriano che ha ammazzato i due signori. Io come non ho detto quello, hai detto, che la società oggi civile deve prevedere che a certe azioni efferate e disumane debbano essere posto rimedio eliminando il problema alla radice. E come appunto, siccome il problema alla radice non è quello che dice Parenzo, perché soprattutto qua in Italia i criminali vanno in galera, ma per pochissimo tempo, e tante volte neanche non ci vanno, e quando ci vanno rappresentano un costo sociale altissimo che pago anch'io, a me non sta bene. Per certe cose mi sta bene, ma per certe altre cose non mi sta bene di pagare una persona che ha già compiuto dei danni enormi alla mia. Ma qual è? Qual è? Che dici? Qual è? Ma qual è? Ma io davvero capisco che ormai il buon senso è questa gente qua. Cioè io capisco che ormai dire le cose che dice questo signore è diventato di dominio comune. È diventata una cosa comune. Cioè una cosa che fino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile da dire, perché in Italia il fronte di quelli favorevoli alla pena di morte non è quello rappresentato da questo e purtroppo tanti altri che ogni volta che ci sono. Quindi quello strano sembro io. Quando invece oggi è normale che un signore come questo qua chieda la pena di morte per ivoriano. Ho capito, ma uno ha anche il diritto di essere, come hai tu il diritto di essere contro, ha il diritto questo di essere a favore della pena di morte. Dai, esatto, su. Allora il concetto è questo, come uno ha il diritto di supportare certe teorie, che parliamo come fa sempre dell'immigrazione, dell'accoglienza, oppure dei gay, del matrimonio gay. Come uno ha il diritto di supportare queste teorie, ma perché io non posso avere il diritto di provarle? Allora possiamo metterci d'accordo, lei come altri, Salvini, l'abbiamo sentito prima, che dice che vuole chiudere, ma non mi interessa che cos'è lei, non sto facendo un'etichetta. Quelli che oggi dicono chiudiamo il CARA di Mineo, ma si rende conto che dicono una sciocchezza colossale? Perché cosa vuol dire chiudiamo il CARA di Mineo? E quindi? Cioè che vuol dire chiudiamo il CARA di Mineo? Fermi tutti. Vorrei una bara fiammante, fuori la chiesa la mia faccia gigante, ed una banda che suona le note del padrino re di Roma, un grande cocchio, sai di quelli che non si usan più, un sindaco in ginocchio che si chini però quando io lo dirò. Non voglio mica la luna. Com'è che fa Dado? Com'è che continua? Voglio solo un funerale con i cavalli, il corteo, i vigili che dirigono il traffico solo per me. Solo per me. Non voglio mica la luna. Allora, io voglio capire una cosa, Dado, che saluto, buonasera, c'è anche Parenzo, eccoci qui. Grandissimo Dado. Allora, grandissimo. Ma ieri sera era in onda? Dado, l'ha invitato? Sì. Certo, è venuto ieri, questo è un editoriale. Quello che lui ha fatto. Assolutamente. È un editoriale. Però io voglio capire una cosa, Dado, ma veramente ti hanno minacciato oppure sono dei cazzoni che si sono soprannominati, cioè, che si sono attribuiti il nome Casa Monica, eccetera, oppure la polizia ti ha detto che sono minacce vere? Guarda, io sono stato da loro, dai carabinieri, e loro mi hanno detto: guarda, la minaccia si avvalora solo quando ci sono alcune caratteristiche. Dopo che ne abbiamo lette due o tre, hanno preso carta, penna, computer, e ho detto andiamo, archiviamo, vai, facciamo, e hanno iniziato a scalfarodizzare tutto quanto, perché c'erano delle cose molto esplicite. Adesso non voglio entrare tipo nei particolari. Su tua madre che hanno fatto, no? Sì, insomma, gli insulti dove insomma illustrano una seconda attività di mia madre a me sconosciuta. Che non conoscevi, no? Che non conoscevi. Io da una mignotta, tua madre una zoccola, una battone. Sì, ma anche con zone di Roma frequentate dove abbattute strade, alcune addirittura salaria. Ma signora, com'è che fai di cognome? Sul serio? Signora eccetera, ma veramente lei fa queste cose? Cioè, poi sai, come solo un figlio può andare dalla madre, perché mi sono venuti i dubbi pure a me, sono andato da mia madre e gli ho detto: senti mamma, ma dimmi la verità, ma se io ti dico salaria, tu ci sei arrivata solo o devi mettere il tom-tom? Ecco, questa è l'unica battuta che mi è venuta. E poi minacce di morte, ma veramente erano membri delle famiglie Casamonica e dintorni, eccetera, sì, eccetera. Ci sono, che io non conoscevo tutti, so che poi in realtà i Gini sono di Silvio, poi ci sono gli Spada che sembra un po' più aggressivi, sono del profilo di Ostia, direi. Sì, però mi fai dire una cosa, questi qua non hanno capito un cazzo secondo me, perché in realtà tu del modo in cui hanno fatto il funerale te ne sbatti i coglioni, cioè tu attacchi soprattutto Marino, chi ha consentito, diciamo, tutto quello che è successo, o sbaglio? Ma sai che c'è, allora bisogna avere rispetto assolutamente per i defunti, per i funerali, ma quando un funerale non diventa più un funerale, ma diventa un simbolo di un, anche loro l'hanno fatto così pomposo per dare un po' di magnificenza a quello che è il loro simbolo, il re di Roma, insomma, per dire che si è spento una fantastico sorta di, io l'ho trovato una cosa più fantastica degli ultimi anni, cioè io non vorrei mai un funerale così, però io penso che ognuno ha il diritto di fare il funerale che cazzo vuole, cioè se uno vuole affittare una carrozza, affittare un elicottero che sparge petali, mettere i manifesti col boss o col presunto boss, deve chiedere permesso intanto, vabbè, ma sì, però. Ma quelle son dettagli. Beh, questo è il primo sì, dei dettagli. Ma d'accordo, va bene, se hanno commesso delle, se c'è qualcuno che ha dato dei permessi non doveva dargli, li puniranno, questi pagheranno le multe, però credo che la colpa, i Casamonica non c'entrano niente in questa vicenda, ognuno fa il funerale come vuole, ragazzi, ma è pieno di gente in giro per il mondo, in giro per l'Europa, che fa funerali pomposi, anche gente, come dire, molto discussa, come i Casamonica. Cioè il problema non sono i Casamonica, o comunque non è il funerale, il problema è che questi qua sono a piede libero, diciamo la verità, dato o no? Dai. Sì, ma il problema è anche la società alla quale veniamo noi siamo dei piccoli borghesi, mia madre è più piccola borghese di lei, la prima cosa che mi ha detto, dicevo, oh, mi raccomando, pure io quando non ci sarò più voglio l'elicottero con i petali, perché noi piccoli borghesi cerchiamo di risparmiare su tutto, quando muore un parente, la bara, no, fammela solo de latta, ce l'hai de lattina, ce l'hai una cosa appunto, biodegradabile, de marzapane, voglio una bara biodegradabile. Ma questi qua hanno fatto muovere l'economia, cioè questi hanno smosso l'economia, cioè chi è che affitta una carrozza oggi? Ma questo bisogna dare atto ai Casamonica, che hanno fatto guadagnare quelli che affittano? È salito un punto di PIL con quel muoverale. Beh sì, ma certo, ma è così, io sono sostenitore di questa tesi, che alla fine hanno fatto muovere l'economia, non fanno male a nessuno, perché quando fai un funerale non fai male a nessuno, anzi al contrario, quelli della polizia ti possono fotografare, possono... Ma non c'era la polizia scortava, ma che ne sai, magari c'è... ma la polizia, no, immagini, scortava, la polizia municipale, d'accordo, però insomma dai, la polizia non... no, ha detto che non sapeva nulla di questa roba, e vabbè, ma quelli... è lo Stato, non i Casamonica, ma questa è la Cenerentola, è Roma che poi alla fine di fronte a una cosa del genere diventa una piccola Cenerentola, una piccola fiammiferaia, sì, che sta lì che si scalda, ma che ti danno la scorta adesso ti danno la scorta, no? Ma no, ma io sono un comico, ma come possono pensare anche gli stessi carabinieri, quando sono venuti a me mi hanno detto, vabbè, insomma, io mica sono Saviano. Ti posso dire una cosa? Una cosa che io sono convinto, non so se siete convinti anche voi, io credo che pure Saviano, a me mi hanno sentito una canzone e mi hanno minacciato, 2 minuti e mezzo, ma legge un libro di 250 pagine di Saviano, secondo me alcuni camorristi l'hanno minacciato sulla fiducia. Ma che cazzo sei letto il libro di Saviano? Io per esempio non l'ho letto, dopo 2 secondi mi sono rotto i coglioni. Cioè... Ma no, a questo punto fai sentire anche l'altra straordinaria canzone di Dado, che è bellissima, sì. Quella su Mafia Capitale. Vabbè, quando te ne sei andato? Aspetta, David, ci sentiamo domani. Intanto, Dado, resta lì, fermi tutti. 800 24 00 24, teniamo tra un secondo, fermi lì. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocrate. La Zanzara. Giunta Veltroni a nominare Odebai, Carmina ti gestiva tutti i bar della Rai, ex terrorista con un occhio solo di estrema destra, mentre Buzzi al telefono ascoltato pure dai Ross. Se tu vuoi che una ragazza sia assunta, questa mucca deve essere munta. Wow, wow, mafia mia, mafia la giudia. Vabbè, te vuoi fare un sacco di amici, Dado, cioè vuoi passare da Mafia Capitale ai Casamonica, che poi più o meno pare che sia la stessa cosa. Abbiamo accontentato anche Parenzo, abbiamo accontentato pure Parenzo. Vabbè, io voglio capire se hai paura o no per queste minacce ricevute via mail, via ma Facebook. Guarda, io sto vivendo un periodo dove sembra questa un'intervista, ma in realtà ne ho fatte 10 oggi, 11, vabbè. Non so più, non tengo più il conto. Però la cosa bella è che in tutto questo stanno nascendo una sorta massa di persone che mi vogliono. Sì, io sto con Dario. Bene, insomma, mi sono vicine. E con i miei autori abbiamo deciso di dedicare la prossima serata, che sarà all'Ombra del Colosseo il 4 settembre, sì, venerdì, sì, alla libertà di espressione e di satira. E lo spettacolo si intitolerà Ripiamo se Roma, proprio, sì, in romano. E hanno aderito una serie di personaggi. Sì, anche gli amici, l'ultimo, anche gli amici del trio che stamattina ho sentito. Il trio Medusa, con te, sì, straordinari, Enrico Montesano, sì, pensa, Vinicio Marchioni, che è il figlio. Sì, lo conosco, come no? Certo. Di della banda della Magliana, di romanzo criminale, certo. Di romanzo criminale, e mi ha detto poco fa, ha detto: Dato, io vengo con presento un corto all'Isola del Cinema alle 9, ma visto che te inizia alle 9:30, io finisco di presentare il corto e vengo subito da te. E quindi faremo una cosa sul palco. Lui con la voce del freddo mi dirà: volete ripiare Roma? E ripiatevela, ma insomma ce la, sì, restituisce però, a noi persone per bene. Al di là di questo, aspetto pure a te, aspetto. Ma io stavo a Milano, Roma, meno ci vengo meglio è. Senti una cosa, però io sui Casa Monica io penso una cosa molto semplice su quello che è successo, perché veramente mi è dispiaciuto non essere in onda quando è scoppiata la vicenda. Allora, innanzitutto, se sono mafiosi andava fatta una redata subito, e quale migliore occasione per un funerale. Seconda cosa, i funerali di Stato sembravano quasi funerali di Stato, questo bisogna dire. Mancavano le frecce tricolore. Dunque si può dire che sono, come dire, forse c'è qualche connivenza. Erano dei veri e propri funerali di Stato. Diciamo la verità, sembravano funerali organizzati da una costola dello Stato. E poi onore ai Casa Monica. Qualcuno mi dice: no, questi non pagano niente, figuriamoci se hanno pagato le carrozze. Ma mettiamo che l'abbiano pagato, mettiamo che abbiano pagato l'elicottero e l'hanno pagato. Hanno fatto muovere un po' l'economia. Quarta cosa, ognuno fa come cazzo vuole. Se è una persona che gira libera, che non è come dire, che non è latitante, o comunque che non è un criminale, organizza i propri funerali come vuole. Qual è il punto? Qual è l'offesa? La città offesa? Chi se ne frega le prime pagine del New York Times? Ma infatti non è la città che è offesa, è offesa la persona comune che vota il sindaco e si aspetta di non trovarsi ma non è che il sindaco può impedire i funerali. Luca Telese, dove sei, cazzo, Luca? Eccomi qui davanti. La gente si lamenta di pagare le multe, di essere sotto osservazione da parte del sindaco. Dato, ma che c'entrano le multe adesso con i funerali di Casa Monica? Telese, dammi forza su questo. Sostieni. No, io incredibilmente sono d'accordo con te, Giuseppe. Cioè, questo funerale è stato un simbolo di debolezza dello Stato, perché in Casa Monica, quando si seppelliscono, fanno come gli pare, cioè si perseguiscono da vivi, non da morti. Sono uno Stato carogna, sono uno Stato totalitario, integralista, islamico. Nel senso più estremo possibile, combattere. Facciamo una cena, facciamo una cena con i Casa Monica, io e te, Luca. Facciamo una bella cena con i Casa Monica. Poi? Che fai, Luca? Luca? È morto, Luca, figuriamoci perché. Luca? Luca? Grande ritorno di Telese alla Zanzara, senza se sente. Vabbè, Dato, non ho capito qual è il punto. Cioè, non ho capito che il 4 di settembre ripiamo se Roma all'Ombra del Colosseo. Vabbè, ma Marino va cacciato o no, secondo te? Tu che sei un comico romano adesso sulla cresta dell'onda dopo quello che cacciato. È successo. Cacciato, ma io con Marino c'è campo. Perché? Ah, no, perché dici? Più cose fa, più cazzate fa, più cose riesco a scrivere. Io faccio un po' di satira, alleggerisco la sopportazione della realtà grazie ai comici, si fa così. Noi serviamo a questo. Cioè, Marino resta perché ci fai campare, ci fai lavorare. No, Marino resta, ma cerca di, vogliamo divertirci a vederti a naspare nel blu dipinto di blu. Quando cerchi di risolvere i problemi non ce la fai, per questo la gente poi ha diritto di lamentarsi. Vabbè, perché non vede l'ora di questo. Ho pagato, ho votato bene, adesso ho pure diritto di lamentarmi. Pago le tasse e allora mi lamento quanto voglio. È questo che fa il romano. Vabbè, Dato, ciao, grazie, ciao. Ragazzi, non c'è un cazzo da fare, passa il tempo, ma i collegamenti con Telese sono sempre gli stessi. Sono qua. Vi ricordate anni fa, con collegamenti che cadevano, telefoni che non si sentivano? Beh, incredibile. Allora, devo dirvi una cosa, Luca Dalesi adesso ci accompagnerà in questi giorni dalle 8 in poi. Io uno dei grandi rimpianti che ho nella storia della Zanzara è stata la famosa vicenda Telese Marcegaglia. Adesso non interessa più nessuno, ma è stato un mio grandissimo rimpianto, perché ho commesso un errore diciamo di prudenza, quello che volete, ma comunque sempre un errore, perché Telese disse del presidente all'epoca di Confindustria e dunque editore di questa radio: la Marcegaglia è una cretina. Il discorso era inserito all'interno di un ragionamento, adesso non vi faccio di nuovo la storia, le intercettazioni, Arpisella, Porro, eccetera eccetera. Disse però: la Marcegaglia è una cretina. Si scatenò un mezzo. È una cretina. È una cretina perché? Allora, la cosa fondamentale è che io per prudenza l'ho sospesi. Poi sono successe altre cose, però. Ho commesso un errore, perché avrei dovuto, ecco, il Cruciani di adesso rispetto a quello del 2009, quello che era il 2010, avrebbe sospeso la Marcegaglia. Avrebbe, questa è buona, avrebbe tenuto in onda Telese finché morte non ci separi, cioè questa è la realtà, finché poi non sarebbe venuto dall'alto però il diktat di sospendere Telese. Dunque ammetto, mea culpa, un errore che commisi in quella vicenda, è un errore che commisi, come dire, per, se vogliamo, quasi per proteggere la trasmissione, per cercare anche di farlo tornare in onda, però comunque un errore. Di fronte a cose anche forti nei confronti del tuo editore, bisogna avere le palle per dire no, anche questa cosa quando è motivata si può dire. Si ha il bisogna avere il coraggio, ogni editore deve avere il coraggio che i suoi dipendenti parlino male di lui. Se c'è un editore che non permette che si parli male di lui, quello bene non è un vero editore, non è un editore puro, non è un editore per bene. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Questo no, caro Razzi, non si può dire. Allora Luca, ti voglio fare un mezzo regalo, ecco. Cerchiamo di chiamare in diretta, se ci riusciamo, la figlia di quei due ammazzati. Sembra una cosa un po' palpa, però è così. Sì, che ha fatto il proclama. Che ha fatto il proclama politico, eccetera, eccetera. Vediamo se riusciamo a parlarci. Buttato giù, vai Danilo da Cuneo. Non è caduto il mio stavolta. No, Danilo da Cuneo 800 24 00 24. Dimmi. Ciao, cioè, innanzitutto bentornati, che non se ne poteva più. Vai Danilo, dimmi. Detto questo, ti porto la mia esperienza di gatti congelati. Cioè, non ho capito. No, perché c'è una signora, devi sapere, a Vimodrone, no, provincia. Ho fatto tutto, ho sentito, ma anche questo congela. Ma che chiama la polizia? No, Danilo, che è successo? Danilo, Cruciani non fa sospendere anche me dalla telefonata, lasciami finire. Dimmi. Ti dico, praticamente è successo 5-6 anni fa, no? Sì. Noi in famiglia avevamo una gatta storica, che eravamo da 18 anni. Questa gatta viene a mancare improvvisamente. Sì. Io e mia sorella, che all'epoca non abitavamo più con i miei, non ci siamo. È un sabato, non ci siamo, gli volevamo dare una giusta sepoltura. Cosa ha fatto mia mamma? Siccome io e mia sorella siamo tornati il lunedì, e chiaramente il lunedì era metà luglio, penso, un caldo terrificante, il gatto non si conserva fuori dal frigo dal sabato a lunedì. Cosa ha fatto mia mamma? L'ha messa nel freezer fino al lunedì mattina siamo arrivati e abbiamo dato una giusta sepoltura. Cioè, non ho capito. Tutto molto semplice. L'hai congelato per poi seppellirlo? Cioè, non l'hai congelato per poi imbalsamarlo come ha fatto quella signora di Vimodrone? L'ho congelato per seppellirlo. Il problema è stato quando l'abbiamo tirato fuori dal freezer il lunedì mattina, l'abbiamo accarezzata. L'avete? L'abbiamo accarezzata per dargli l'ultimo saluto. Oddio! Cioè, sono spaccato. Però, scusami, Luca, perché ti sembra così orribile congelare un gatto? Non ho capito. È il culto del gatto morto e la necrofilia. Ma che necrofilia? Cioè, eravamo attaccati a questo gatto. Voce sorridente. Passi la prima inumazione nel freezer e poi voglio vedere se ci metti un tofficino. Ma poi esce fuori e lo accarezza pure. Cioè, no, è fatto che fra un po' ti rimane la mano attaccata. Il problema era quello, però ti l'hai tolta in tempo. No, vabbè, ho capito, ma ti pare normale che qualcuno possa denunciare per maltrattamento degli animali? Danilo, la madre, oppure quell'altra signora di Vimodrone? Lì siamo alla follia, anche perché noi il gatto che ha avuto 18 anni, curato, guardato benissimo. Appunto, bisogna fare ma gli animalisti? Ma certo, gli animalisti dovrebbero fare. Ma poi il freezer l'avete lavato? Cioè. Ma è tanto carne, ma non è che l'abbiamo messo sopra la bistecca e sopra la pagnotta, chiaramente gli abbiamo messo un pezzo di un pezzo di io però devo dire la verità, non mi verrebbe in mente, siccome mi muore il gatto e sono fuori, non mi verrebbe in mente di congelarlo, devo dire la verità, congelarlo per poi seppellirlo. neanche a me, ti dico la verità, però mia mamma quando me l'ha detto, simpatico, è una trovata superlativa. Solo una cosa, però adesso mi sono un po' spaventato. Non vorrei che ti facessero chiudere la trasmissione per colpa mia, perché sennò poi. Ma perché mi dovrebbero chiudere la trasmissione? Non ho capito. No, parlando di gatti morti, gatti congelati. Figuriamoci, gatti fossero queste le cose, dai, su. C'è un'altra da Torino, aspetta, Emma da Torino. Senti questa qua, Luca, senti, Emma. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Allora, anch'io sono una congelatrice di gatti. Siamo al top. Ma siamo circondati dai congelatori dei gatti. No, perché non puoi più andare da nessuna parte. Perché il problema è quando trascorri 19 anni, come nel mio caso sono stata fortunata, con una bestiola, poi non hai il coraggio di darla all'inceneritore. E allora che hai fatto tu? Io ho un'amica che vive fuori città, in Val di Susa. Sì, e allora le telefono e le dico, guarda, il gatto, stiamo lì. Vero che tu mi dai il posto, e lei mi dice sì, lei ha il giardino, però chiaramente poi quando il gatto muore io lo devo congelare, perché poi si lavora, si fa nel sabato o la domenica l'operazione. E quando non avevo la macchina, l'ho portato pure in treno, sono andata anche in treno con la borsa col gatto congelato. Ti sei portata il gatto congelato dietro? Sì, ma per treno. Fare che? Per fare che? Seppellirlo. Vabbè, ma ragazzi, ma questa è la follia, dai, su. Avevo il terrore, c'era la polizia. Ma poi, scusa, se mi fermano col gatto congelato, pensano ancora che io sia una figlia di Satana, vado a fare riti satanici, invece andavo solo a seppellire però il gatto. Vogliamo dire una cosa, caro Luca? Quanti saranno questo momento che hanno un gatto congelato nella borsa, una tartaruga, un armadillo? Non lo so. No, ma c'è un'altra cosa. No, ma c'è un'altra cosa incredibile. Cioè, secondo me, ho saputo che degli amici, per esempio, hanno fatto il funerale del cane. Il funerale, ma tutti. Ma che si fa? Ma metteteli nel coso, metteteli nell'inceneritore, non rompete i coglioni. Pure lei, signora, non rompa le scatole o i coglioni se vuole, con questa storia qua del seppellimento del gatto. Ma che uno va a pregare per il gatto dopo? Cioè va lì a mettere il fiore sulla tomba del gatto. Ma già abbiamo problemi a seppellire, a trovare lo spazio per seppellire gli esseri umani. Adesso ci dovete rompere i coglioni col seppellimento dei gatti e degli animali. No, quando io vado a trovare la mia amica, dico: ecco, guarda, lì sotto quel pelo c'è il gatto. Ma chi se ne frega, dai, su il gatto, ma mettete l'inceneritore, liberatevene. Le tombe dei gatti, i funerali dei gatti e degli animali, ma siamo arrivati veramente alla follia dei funerali degli animali, dai, su. Che puntatona, Cruciani, abbiamo ripreso bene, comunque dai. È tutto vero. Ah, ma quindi, signora, non è vero, lei l'ha inventato così. No, è vero, giuro, ho i testimoni, posso dare i numeri di telefono, è tutto vero, potete esumare i corpi. Ciao. Pubblicità, ciao. Quindi, quando vai a casa mai un surgelato. Ciao. Buonasera, Cruciani. Allora, anch'io sono una congelatrice di gatti. La Zanzara. Guarda che c'è gente strana in giro. C'è un'amica, non posso fare il nome, caro Telese. Le persone che mi scrivono in privato per questa storia dei gatti e dei cani, non posso fare il nome, dai, però a meno che le persone non mi diano via libera, ma siccome sono persone che hanno anche ruoli importanti, no, ma insomma hanno il loro mestiere, non gli va di essere citati, eccetera, non lo posso. No, che la Boldrini. A proposito, hai saputo che la Boldrini pare che non abbia più fidanzato? È una delle notizie di quest'estate clamorose. Cioè, pare sia sfidanzata. Credo che sia un miracolo che la signora Boldrini possa trovare un fidanzato, perché sfido chiunque a fidanzarsi con la Boldrini quando è presidente della Camera. Perché, insomma. E io invece ho visto la Boschi con un ragazzo a Marina di Pietrasanta. Attenzione. Cioè, l'hai vista con un ragazzo? Io l'ho vista adesso a Formentera. Tu mi dici la Boldrini? Tu hai visto a Boschi a Formentera. Cioè, tu l'abbiamo vista in due situazioni diverse. Tu a Marina di Pietrasanta e io a Formentera. Io vi stavo un po' così in un clima, diciamo così, no? Cioè, come? Con un fanciullo. Cioè, tu stai dicendo che a Marina di Pietrasanta era accompagnata da uno che era che può essere camminava un presunto fidanzato. Scherzando, ridendo, o magari è cugino, fratello, però era così, l'ho vista. Allora, stupisce? No, assolutamente, mi stupisce che sia da ragazza. Sola. Mi stupisce che sia da sola a 34 anni. Anzi, devo dire la verità, da un certo punto di vista, meglio per lei. Meglio per lei. No, io l'ho vista a Formentera, in un bar una sera. Poi le hanno fatto anche delle foto. In un bar, Blue Bar, alle 4 di mattina. Alle ore 4, perché sto bar finisce molto, cioè chiude molto tardi. È circondata, c'era Bonifazi, c'erano delle amiche. Alle 4 di mattina, un bar, uno dei più conosciuti dell'isola, si chiama Blue Bar. L'ho vista, ci siamo salutati da lontano. Bonifazi è venuto verso di me, che è il tesoriere del Partito Democratico. Abbiamo chiacchierato 10 secondi. Un po' impressione mi ha fatto, devo dire. È una cosa che sembra di grande normalità. Cioè, un ministro che fa le 4 di mattina, giovane, che ha 34 anni. Però alle 4 di mattina un ministro non è così. Non dà una bellissima impressione. Mi hanno detto tante No, è una brutta impressione. Dai, non facciamo il pacchetto. Sì, però no. Quando non lavora può fare quello che vuole. Così come Marino, se sta in vacanza, può andare anche in una situazione. Non è vero. Ha ragione Rutelli. Ha ragione Rutelli quando è in vacanza. No. Mo deve andare ad Anzio. Oppure Rutelli si è fatto le sue Bermuda, dai. Rutelli, quando era sindaco di Roma, così ha detto, magari non è vero, andava in vacanza in posti molto vicini. E secondo me il sindaco di Roma va in vacanza in posti... può andare in Congo, ma magari torna. Magari deve tornare in un giorno. Forse sono tutti contenti che non torna Gabrielli e NC, no? Però questa cosa che hai detto prima dei tuffi, fra un tuffo e l'altro, ma è Gabrielli che l'ha detto. È come una coltellata, cioè, sì. È proprio il linguaggio del burocrate geniale che è l'esodo di mano e di coltello, guarda. Cioè, Gabrielli, tu dici che non l'ha eletto nessuno, non l'ha votato nessuno, è un funzionario dello Stato. Mandatelo via, allora mandatelo a casa, calcio nel sedere a casa. Hai ragione tu, su questo hai ragione non tu. Non serve la baglia, non si può accettare la baglia. Scherziamo, su questo hai ragione, perché l'ho detto anch'io tempo fa. Cioè, o il PD ha il coraggio di cacciare a pedate nel sedere Marino, Però devi dire perché, devi dire poi che facevano, oppure poi non è che mandi uno a fare, certo, che mezza giunta lì. Magari devono anche dire che il tesoriere del Partito Democratico ha richiesto di pagare gli stipendi, ha detto vai da Butti, e quello gli ha dato i soldi. Cioè, alla fine poi questo è il problema che loro non vogliono affrontare. Allora, tornando ai gatti e ai cani, un'amica mi scrive: vi sto ascoltando e io vado a trovare la mia cagnolina, non dico il nome, anzi no, lo dico, la mia cagnolina Minù, a casa di mio padre, dove è seppellita con lapide e con nome e le date. No, la lapide no, vi prego, la lapide no. Cioè, c'è gente che mette la lapide con nome e le date del cane. Nell'Italia contemporanea, però ci pensavo, Giuseppe, guarda che pure gli egizi, Ma ho capito, gli egizi, aspetta, dopo 15 anni con lei, quando è morta, è stato un vero lutto, e questo d'accordo. E andare alla sua tomba ogni tanto mi fa piacere, un bacio, questa amica che mi scrive. Abbiamo fatto anche una cerimonia laica in una giornata di sole stupenda. Laica, perché come cazzo doveva essere se non laica, scusa. A dicembre, con amici e parenti, e ognuno di noi ha scritto una dedica sulla bara di legno fatta dal falegname. Cioè, questi hanno speso pure dei soldi, capito? Per fare la bara di legno a Minù. Siamo circondati di fondi. Anche questo però fa muovere l'economia, fa muovere l'economia, come per i Casamonica. Lo sai che mi ha detto il signor McDonald's? Allora, questa qua sono come i Casamonica. La famiglia che ha organizzato il funerale è come i Casamonica. Senza neanche l'elicottero. È stato commovente ma bello. Un modo di stare tutti insieme. Sì, amica mia, però avete fatto il funerale con la bara per un cane. Avete fatto il funerale con la bara per un cane. Un cane. Con la lapide e il nome. Posso dire che nel momento in cui, non è retorica, muoiono cadaveri ogni giorno. Ieri il Fatto ha pubblicato le foto di tre bambini, di cui uno col pannolino totalmente fracico, zuppo. Quando penso questo culto dei gatti, che sembra una cosa innocente, mi sembra veramente una stronzata. Perché? Che c'entra? Scusami, adesso questa è una cazzata, scusami. Ma io dico qual è, le cazzate qual che è la cazzata? Sì, certo che dici le cazzate che vuoi, ma fammela capire la cazzata che hai detto. Perché in un tempo in cui la vita delle persone vale il costo di un bruscolino... Ma perché adesso tu ti emozioni perché no, quando vedi un bambino morto nel canale di Sicilia, oppure nella stiva di una... Ti emozioni ancora per queste cose? Anche a te. Non me ne frega un cazzo. Non è che non me ne frega un cazzo perché non me ne frega un cazzo della morte. Una figlia, no, ma non è che no. Ascolta. Non fare il cattivismo. amore, cioè, Luca, non è che non me ne frega un cazzo perché penso che la vita non valga nulla, perché dobbiamo essere realisti. Ognuno di noi continua a fare la stessa vita dopo, non ce ne frega niente, anzi, devo dirti la verità che per quello che facciamo noi, quando succedono queste tragedie, un po' ti viene l'acquolina in bocca, ti viene l'acquolina in bocca, polemiche, casino. Sì, è no, così, non, no. Sì, non a neghiamolo. A me sì, mi viene l'acquolina in bocca, c'è il casino, non è che lo voglio, ma è... potrebbe essere mio figlio. Ma chi è che mi rompe i coglioni col telefono? Chi è che mi rompe i coglioni col telefono? Vabbè. Ma che ne so, mi chiamano a quest'ora. 800240024, Sergio da Bologna, vai. Sergio. No, io sono di Padova, sono a Bologna adesso. Volevo parlarti di due cose rapide. Ma che sei, un camionista? Che sei, camionista? Sì, sono del paese, vediamo se lo sa Parenzo. Il paesano, sono no, Parenzo paesano non c'è stasera. Vabbè, bravo. Dimmi, paesano di chi? Di Ennio Doris e di Dino Baggio, vediamo se sai. Ma Ennio Doris, lo sa il telese questo, dove è nato Ennio Doris? Baggio a Padova, vicino Padova. Bravo. Vicino Padova, sì, che paese sì, è? Sì. Dimmelo te, ma che è il quiz questo? Tombolo. Ah, Tombolo. Sei di Tombolo, che fai? Camionista, che fai? Bravo, faccio camionista. No, volevo dirti due cose. Guarda, dimmi. Che la signora del gatto non è tutta scema se vuole imbalsamare i gatti, No. O imbalsamare un elefante, per esempio. Dov'è? Se l'imbalsamatore non c'è tempo di farlo, l'unica maniera per mantenerlo è congelarlo. No, io guarda che sono dalla parte della signora, dico semplicemente che gli animalisti che hanno denunciato questa signora di Vimodrone di 61 anni sono per avere scemi questi qua, ma sono dei coglioni inenarrabili. Bravo. No, guarda, volevo dirti questa cosa perché la signora, se deve imbalsamare il suo gatto, non è tutta scema. Cioè, per mantenerlo deve congelarlo. Questo è il fatto. Vabbè, dopo poi... se vuole mangiarselo è nato un paio di maniche. Poi? E poi farei domanda per la Boldrini, sono stanco da lavorare. Cioè? Cioè? Ti candido a essere fidanzato della Boldrini. Ma lo facciamo un grande reale? Ah, bene! Perché ti piace Telese, la Boldrini? Telese, ecco. io sono 35 anni che faccio sto mestiere, no? Allora? Ma mi piace che lei piaccia la Boldrini, così Telese, pensa che sono radicale. Una bella fidanzata presidente della Camera, meglio di questa che vabbè, ma solo per quello allora, dai, su, ma ci vuole, per fidanzarsi con la Boldrini bisogna avere un po' di perversione. Ma no, gli piace la sua... Aspetta, non è che le piace la carica, scusi se ho capito bene, le piace proprio lei. No, io ti sto dicendo un'altra cosa. Che si vuole mettere a posto per la vita, si vuole mettere a posto. Bravo, Cruciani, ma che fai, hai mantenuto il toy boy, uno fa la vita del camionista, poi fa il toy boy della Boldrini, ma roba da matti. Ma che roba da matti, il sindaco stranamore. Guarda che c'è gente che se le trova più vecchie, più anziane di queste qua della Boldrini. Boldrini ancora... Non le piacerà la Boldrini. Ma che bella donna, ma quale bella donna? Ma chi ha detto che è una bella donna, però è sicura, hai capito? Ragazzi, guarda, è sicura, non c'entra niente, Sergio. La cosa reale è che se la Boldrini non ha più fidanzato, e vabbè, d'accordo, ce ne faremo una ragione, ma fidanzarsi... A te Giuseppe un po' piace. La Boldrini. Ma tu sei... Ma bisogna essere perverso. Per fidanzarsi con la Boldrini bisogna avere... Ma tu sei perverso, come dimostrano tutte le interviste agli atti, ma voglio dire, a Boldrini piace un po'. Sì, ma perverso, non a tal punto da farmi piacere la Boldrini, guarda. Non ho una bella donna. Non ho nessuna tensione sessuale nei confronti della Boldrini, no, una bella donna non puoi dire, dai, su, bisogna essere, permettersi con la Boldrini. Perché te sei gerontomane, ti piacciono le ottuagenarie, queste cose qua, ma la Boldrini non può non piacere, soprattutto il nostro amico. Non può non piacere. Che l'hai mortificato, era partito dicendo che aveva questo afflato e l'ha imbugliato. Alex da Treviso, 800240024. Alex, dai. Alex, almeno lei le piace la Boldrini? Così a bruciapelo. Ti piace la Boldrini o no? No, è senza fidanzato. Dobbiamo trovare un fidanzato alla Boldrini. Ti piace o no, Alex? No. Ma per carità, ma non piace a nessuno. Ma chi è che vuole? Ma veramente è complicata questa cosa qua. Cioè, quando parla, quando la vedi, ma si può trovare un uomo che si avvicina alla signora Boldrini dal punto di vista così? Ma non è importante. No, è molto charmant, molto charmant. Ma che molto charmant. Dai, Alex, dimmi. Niente, non sono d'accordo quando hai detto il funerale di casa Monica, uno può fare il funerale che vuole. Ma certo, lo dice anche Telese. E che facciamo? No, lo può fare se i soldi sono suoi, non se sono rubati. Ma sono che rubati. C'entra? I soldi rubati lo decide la magistratura, ci sono i magistrati che fanno le indagini. Non era indagato. Allora, se tutto il mondo era... ha visto un funerale di un mafioso, è un mafioso. Sì, punto. Allora, giustamente dice Telese, non era nemmeno indagato per mafia, aveva delle condanne, credo, per truffo o altre cose già scontate o comunque non sono di adesso. No, non sto dicendo se era innocente. niente colpevole. Alex, c'era... ognuno fa il funerale come stracazzo vuole, con le carrozze, allora, con i petali, con gli elicotteri, con i manifesti. Non con... è possibile che l'Italia venga inquadrata con... Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma non è che non ci è... vogliono i Casa Monica per inquadrarci come mafiosi, dai, abbiamo la criminalità organizzata da 50 anni, dai, su. Appunto, invece di cambiare questa nostra immagine sul mondo, no, facciamo i funerali con gli elicotteri, le rose, le carrozze. Ma non lo decidi tu se bisogna farlo o no. Per fortuna c'è la libertà di decidere di organizzare il proprio funerale come uno vuole, cioè senza che ci sia qualcuno a dire no, siccome siete Casa Monica non potete organizzare il funerale con la carrozza. No, ovviamente devi chiedere i permessi a tutti. I soldi là non se li sono fatti lavorando, spaccandosi infatti, la schiena come con tutte le persone. Quei soldi là non esiste arrivano, il reato comunque... d'opinione ipotetico, esiste il reato personale. Hai fatto un reato, sei con una libertà limitata, non hai fatto un reato e non hai una condanna, fai come ti pare. Capito, Alex? Quindi, scusate, quei soldi da dove arrivano? Poi a lei manco piace la Boldrini, su, andiamo via, presentiamone uno che gli piace la Boldrini. No, mi state dicendo che arrivano da attività legali... Ma non lo so, ma non è... Ma lei non sta dicendo, lei non sa niente di chi è Vittorio Casamonica, che avrà tutti i suoi problemi, ma lei non sa nulla del suo stato patrimoniale, di che ma poi non c'entra niente col funerale. Però lei ha letto che il funerale non andava fatto. Ma poi non c'entra niente il funerale, cioè che c'entra il funerale? Il funerale lo possono fare pure, ma guardi che i padrini, ma guardi che se lo faceva Pinco Pallino, imprenditore di non so che, e faceva non succedeva niente, elicottero e tutto, era giustissimo, poteva farlo. Non gli si dice niente, ma un criminale invece è condannato. Ma un criminale, quello non era formalmente un criminale, voi si fanno i peggiori traffici del mondo, ma non c'entra niente con i funerali. Si colpiscano i traffici, non i funerali. Fermo, no, Marco da Roma. Per seguirli da vivo, non da morti. Marco, a te piace la Boldrini, almeno te. Pronto? Marco, ti piace Pronto, la Boldrini Marco, o no? La Boldrini. La Boldrini mi piace, dice delle cazzate mortali che non si possono sentire, poi dal punto di vista estetico non è bello quel che è bello quel che piace, c'è gente che piace, ma allora... se la guardo non dico oh mio Dio che pezzo di figa, non è così insomma. Tanto per essere come dire, tanto sì, per... ecco una cosa un po' cordiana, rarefatta, che uno c'è come un sentore. Esatto, vai Marco, che mi devi dire? Fermo là, fermo, me lo dici dopo. No, Giuseppe, Luca e Company, una cosa, no? Lasciamo perdere un attimo di Casa Monica, tanto se ne è detto e se ne è fatto di tutti i colori. Sì. Volevo riferirmi al fatto dei gatti del congelamento. Il gatto congelato. Ci sono due cose che divento matto, tipo cose tipo fanno per televisione, le cose di disgrazia, dopodiché spazio pubblicitario con il gatto che mangia dentro il piatto. Fatto dal grande chef con i cosi, sono delle cose assurde. Ma la cosa più assurda è che ho una parente che porta il cane dallo psicologo. Fermi tutti! No! La parente che porta il cane dallo psicologo con questa pubblicità. Certo, se la guardo non dico oh mio Dio che pezzo di figa, non è così insomma. Merita una riflessione questo. La Zanzara. Se la guardo non dico oh mio Dio che pezzo di figa, non è così insomma. Allora come avete sentito dalla pubblicità che abbiamo fatto, esiste una trasmissione in questa radio, siamo arrivati a questo punto che parla di telepatia tra cani e padroni. Telepatia, voglio diventare pazzo. C'è Marco da Roma che dice che un suo parente porta il cane dallo psichiatra. Io non ci posso credere, però Marco, vorrei sapere chi è lo psichiatra. Soprattutto se forse ci deve andare lui dallo psichiatra, il parente. Marco, non ho capito. No, non sento, non sento, dimmi. Pronto, mi senti adesso, Giuseppe? Sì, dimmi, dai. No, è una cosa vera, cioè ha portato il cane dallo psichiatra per un sacco di tempo e ci ho discusso più di una volta perché non riuscivo a capire cosa diceva, se il cane parlava con lo psichiatra o se lo psichiatra parlava col cane. La cosa che mi è successa è che una volta il cane stava mangiando e io guardavo il cane che mangiava e lei mi ha detto no, non lo guardare perché altrimenti si crea problema perché sta in uno stato depressivo e quindi se si guarda mentre si mangia perde l'appetito e non mangia. Ma chi te l'ha detto questo, scusa? Chi lo dice? Ci stanno delle cose che chi lo diceva che questa qua? Io lo diceva la padrona che ha parlato con lui. Ma la padrona chi è? Tua sorella, tua fidanzata, chi era? No, la padrona è la sorella della mamma di mia figlia. La sorella della mamma di tua figlia. Mia cognata, sarebbe mia cognata, ma non... siamo stati sposati 6 mesi, sono 30 anni che siamo separati. 30 anni. Però è un personaggio un po' strano, insomma, un po' sulle righe. Beh, sì, certo, non c'è dubbio su questo. Cioè, se pensa... Sì, perché fa delle cose che... Ah, è la stessa cosa che ti dicevo prima, vedi in televisione, magari fanno vedere il Onlus, mandate i soldi, conto corrente, numero, e lo spot successivo c'è il gatto... Che, vabbè, non faccio nomi, che gli viene versato la sua porzione, vabbè, fatta da un grande chef, c'è anche qua dentro il piatto quadrato meraviglioso. Marco, grazie, col cippettino di prezzemolo. Che da bella, che bella gente, sei circondato da bella gente. Luisa da Brescia, fantastico, vai. Senti, c'ho 3-4 gatti dentro al surgelatore pure. Capisco perché te sei separato. Vai Luisa da Brescia, sì, vai. Niente, volevo solo lei dire chiama per i meravigliate del fatto che qualcuno seppellisce il cane in giardino. A Padova, poco lontano da casa di mia sorella, c'è un cimitero per gli animali, hanno la tomba, sembra un cimitero per bambini, quando ci passo mi ragazzi, viene veramente il una mal follia. Di cuore. Sì, ma io sono sicuro che ma è terribile, non sto dicendo che non esistono queste cose, qualcuno me l'ha anche dette, ma non è che mi stupisco. Penso che siano delle follie totali, cioè sì, il cimitero sì, degli animali, ma di che parliamo? Uno va a trovare un animale. Ma il comune però di mezzo, perché mai più è un privato che... Io sono passata sotto Natale, ci fanno il presepe dentro, con le luci. Presepe con le luci. Sono follie, ma esistono, non so. Sì, ma per carità, poi ognuno fa quello che vuole, se uno vuole fare una piccola... Importante che non ci siano soldi pubblici, perché se no dobbiamo sborsare dei soldi. Non so, bisogna andare a indagare se il comune o... Ce ne saranno già una ventina da un anno. Comunque lei ci sta parte. Raccontando che a Padova esiste un cimitero per sì, animali. Sì, Padova, quartiere Sacra Famiglia. Ma esisterà in tutta Italia probabilmente. Luca da Parma, vai Luca, dimmi. Sì, salve. Dimmi. Io Cruciani, a lei piace molto buttare fuoco sui nervi scoperti del paese e buttando sopra chi ama i cani trova un consenso incredibile. Cioè? Cioè, sappiamo che i cani sono in continua... In continua? Che c'hanno? Sì, perseguitati pure i cani. Ma che ne so, Luca, ciao, ciao. Allora, ero in vacanza, caro Luca, e ho sentito parlare al meeting di Rimini... Ho letto sui giornali un prete che si chiama Giorgio Maria Carbone, il quale sosteneva delle tesi particolari. A mio parere andrebbe cacciato dalla Chiesa immediatamente questo padre Giorgio Maria Carbone. Qui dice che le coppie omosessuali hanno un tasso di mortalità più alto rispetto alle coppie eterosessuali, cioè gli omosessuali sono più sensibili a certe malattie come le cattive, credo, malattie cardiovascolari, e poi hanno un tasso di mortalità più alto. Ma dove li trovano qui? Boh. Ma fatemelo sentire. Gli studi statistici, e lì si evince che le coppie eterosessuali sono esposte a minori rischi cardiovascolari, respiratori, suicidio, tentato suicidio e AIDS, infinitamente minori alle coppie dello stesso sesso conviventi o sposate nel Regno di Danimarca. Ti rendi conto? Chiama la follia, è un personaggio di Verdone, le coppie. Aspetta. Poi a un certo punto in un'intervista successiva ha detto: le farò un esempio banale che penso renda l'idea. Una decina di giorni fa mi trovavo in montagna a Siusi e mi è capitato, stava parlando con un giornalista, di parlare con un contadino proprietario di una stalla e di un pollaio. Questi mi diceva, qui la prospettiva del gender non attacca, i miei figli vivono a contatto con gli animali e sanno benissimo che se le cose stessero diversamente da come stanno, nel giro di poco noi, la stalla e il pollaio, non li avremmo più. Ora, qui c'è una cazzata sesquipedale che viene detta, cioè che la omosessualità sia una non roba contagiosa, che si può espandere e che siamo stiamo andando verso una società in cui la differenza tra uomo e donna non esiste più. È una cazzata pazzesca, una puttanata incredibile. Anch'io sono contro l'educazione sessuale nelle scuole, fortemente contro l'idea che esistano dei manuali, dei libri in cui dicono a un ragazzino come bisogna masturbarsi o spieghino che cos'è la passera, che cos'è l'uccello. Per quello c'è ormai il mondo della realtà e ci sono i genitori. Sono contrario a qualsiasi educazione sessuale nelle scuole prima dei 14-16 anni e anche dopo, non me ne frega un cazzo, non serve a nulla l'educazione sessuale nelle scuole. Però non ci rompete i coglioni con questi argomenti ridicoli. No, qui non esiste questa cosa del gender, è una teoria ridicola. Come si chiama questo qua? Questo si chiama Giorgio Maria Carbone, però è successo una cosa particolare, che lo ha chiamato direttamente il Papa. Lo ha chiamato il Papa? No. Sì, sì, sì, lo ha chiamato il Papa. Lo ha chiamato il Papa. Noi come al solito siamo venuti Andro. No, ma che c'entra Andro? Siamo venuti in possesso di questa telefonata preziosa, di questo nastro prezioso, di questo prezioso nastro di questa conversazione. Pronto? Pronto, buongiorno, parlo con padre Carbone? Io sì. Buongiorno padre, io sono Monsignor Franchi, la chiamo dalla Segreteria Vaticana. Senta, io la chiamo perché ho il Santo Padre collegato che vorrebbe conferire con lei. Glielo passo subito, attenda un attimo. Sì. Pronto? Pronto, buongiorno Santità. Buongiorno Giorgio, disturbo. No, ma Santità, ci mancherebbe. Io ho preferito lasciare passare qualche giorno prima di chiamare, dopo la cosa avvenuta al meeting di Rimini. E io volevo capire se veramente pensi che il soggetto omosessuale è più esposto alle malattie rispetto agli eterosessuali. Santità, guardi, io ho citato il dato che non è mio. Sono di studi danesi condotti in 30 anni. Quindi è una mera correlazione, non è un rapporto di causa-effetto. Se vuole, vengo, se lei mi dà udienza, vengo. Magari potremo incontrarci, ma intanto mi interessava sapere di più. Io purtroppo ho poco tempo e volevo sentire appunto un poco meglio. E guardi, io lei mi dia udienza allora che vuole, il giorno che vuole, io vengo, ne parliamo a voce, perché capisce, per telefono. Poi dirò senz'altro alla segreteria di fissare un'udienza. Poi tutti dicono che io sono a favore dei no, gay. No, no, guardi, ma io sono contrario in realtà a qualsiasi ipotesi. Ma lei l'ha scritto chiaramente del matrimonio. Lei l'ha scritto chiaramente, l'ha dato sì, più chiaro di così. Il gender distruggerà il mondo. L'ha detto a Napoli, io sono di Napoli, lei quando ha incontrato i giovani di Napoli il 21 sì. marzo l'ha detto chiaramente, uno sbaglio grave della ragione umana. Purtroppo è un argomento molto delicato. Cosa pensi dei omosessuali? Te fa orrore il sesso tra gay? Vanno accolti in quanto sono persone. Ci mancherebbe, ma bisogna anche dire i dati di carattere epidemiologico. Cioè esattamente? E lo studio, se lei mi dà un indirizzo di posta elettronica, io le mando tutti i riferimenti e l'estratto di questo studio che io cito. Farò senz'altro richiamare. Esiste veramente una lobby gay? Chi sono questi della lobby gay di cui si parla? Io sento parlare molto. Io questo non è che glielo so dire. E tutti questi politici che sono a favore dei gay, cosa pensi? Guardi, io non vorrò parlare di queste cose al telefono, ho ricevuto anche alcune indicazioni dal dirigente della Digos, che sarebbe la CIA italiana, mi ha dato alcune istruzioni su come comportarmi, quindi non vorrei parlare al telefono di queste questioni. Io capisco, bisogna stare attenti, Giorgio, essere più, non so se il termine è esatto, furbi, e non parlare in pubblico di certi argomenti. Cioè di avere grande cautela. Va bene Giorgio, io devo andare. Allora farò richiamare Darò i dati a Monsignor Franchi e farò richiamare dalla segreteria. Intanto grazie Francesco, grazie della vicinanza, della telefonata, dell'interesse. Io quando lei vuole vengo da lei per esporle la cosa, e se lei mi dà un indirizzo di posta elettronica io mando. Farò senz'altro mandare. Giorgio, che il Signore te benedica e la Madonna te custodisca. Grazie Santità. Grazie. Buona giornata. Grazie. Allora ragazzi, bisogna dire due cose, caro Telese. La prima è questa, che la fredontolo come si allargava. La dico se non è indirizzo me. La dico se la CIA italiana. Questa è meravigliosa, la Digos, la CIA italiana. Poi, però è curioso, cioè, la Digos telefonata. No, ma la Digos che cosa gli avrà detto? Francesco. Sì, Francesco, cosa gli... questa è colpa del Papa che chiama tutti. Ma non ho capito che cos'è questa storia della Digos secondo te? Cioè, che è stato minacciato? Gli avrà detto che è stato minacciato e che deve tutelarsi. No, e poi l'altra cosa è le scorta il certificato di notorietà. Un indirizzo mail e le mando lo studio danese. Questo ancora insisteva con il suo studio danese. Sì, è vero. Però dobbiamo... dovevate farvelo mandare, Monsignor, come si chiama? Doveva far mandare lo studio. Doveva far mandare? Ah, lo studio. Perché lui all'inizio ha paura. Comincia la telefonata e dice: "No, ma non sono opinioni mie, è uno studio." Poi sente che Papa Francesco gli dà un po' di bordone, dice: sì, ti sei protetto, sono minacciato, la Digos italiana, la CIA italiana. La CIA italiana, la Digos che è un po' la CIA, ma questi dove vivono? Fuori dal mondo? La Digos, la CIA italiana, ma non c'entra una mazza la Digos con la Digos e la polizia. No, ma lì era per fare un po' di scena, questo è un napoletano furbo, per fare un po' di scena col Papa e dirgli: la CIA mi protegge, capito? Mamma mia, questo momento. Allora, io lo manderei a fare solo funerali di cani e di gatti, però bastardi. Annarita da Milano, vai. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Allora, dimmi. Innanzitutto complimenti, mi sto divertendo un sacco. Vabbè, vai Annarita, vai, vai. Sacco quello che fate. Allora, ve ne devo raccontare due. Allora, come una, stai, io Frito? Avevo un cane che era fantastico. E purtroppo vabbè non ce l'ho più perché per motivi di famiglia l'ho dovuto allontanare. Vabbè comunque che motivi sono? Che motivi sono? È scappato con tuo marito? Ma magari che c'è? Tuo marito è come si dice quelli che vanno con gli animali là. Allora io abitavo in montagna poi purtroppo mi sono lasciata col mio ex e automaticamente ho mollato anche il cane. E perché? Perché non te lo sei tenuto tu? Scusa. Ho mollato anche il cane perché lui lì era in montagna. Vai dal giudice, no? Io ero in un appartamentino esclusivo e non potevo tenerlo perché avevo anche mia mamma che era malata. Quindi dovevo assistere anche mia mamma. Non potevo stare dietro al cane, dietro a mia mamma. Vabbè, allora... Comunque niente, la cosa più bella di questo cane... Una volta mia mamma gli ha detto al cane di andare, di venire verso di me. Il cane involontariamente, sì, non so, l'ha fatto un vagito, l'ha fatto qualcosa. Abbiamo sentito la parola mamma. Questa sarà una cosa, cioè è per me rimasta nel cuore, però effettivamente mi è successo. Invece la cosa che è veramente più strana è l'altro giorno un mio amico lavora alle onoranze funebri allora? Ha avuto una chiamata dalle onoranze funebri dall'agenzia dicendole: vai in via Tale, vai a prendere il cane, portalo giù in Sicilia. Non ci credo, cioè c'erano delle persone che volevano trasportare un cane morto in Sicilia per seppellirlo. Il cane morto giù in Sicilia, hanno chiamato le onoranze funebri. Questo però è come il discorso di Casamonica, fa girare i soldi, l'economia, guadagnano le... Sì, ma ho capito, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto? A me lo dice, siamo noi italiani che spendiamo soldi, no, ragazzi. Ma queste cose qui accadono in tutto il mondo. Lo so, tutto ma il però... mondo. Annarita, è stupendo, il cane trasferito per seppellire in Sicilia è meraviglioso. Silvio da Milano, vai Silvio. Eccomi, dimmi, sono? Vai, vai. Allora, ma qui bisogna far chiarezza, perché la Boldrini è una bellissima, bellissima donna, non bella. Uno deve vederla nella sua femminilità, che non è quella della Jespica, perché sono capaci tutti di farselo venire duro con la Jespica, con quell'altra lì che fa vedere il triangolino. Bravo, come si chiama la Belen lì? La Boldrini è una da stivalone, manette e frustino. la Boldrini devi vederla così. Cioè, parolacce. Ah, così. Cioè, tu dici che la Boldrini la devi vedere sottomessa oppure lei dominatrice, non ho capito. Uguale, alla fine si switcha come sempre nella vita. Per cui la Boldrini va bene ammanettata. A chi piace essere ammanettato dalla Boldrini sta bene col frustino in mano, ma è sì. Perfetta. Perfetto, non ho mi dici, no, tu che conosci bene Siffredi, chiediglielo e vedrai che lui ti dirà è vero. No, secondo me a Siffredi... Finalmente un ascoltatore illuminato. Ci siamo fatti, innanzitutto questa sera ci siamo fatti ancora amare dalla presidenza della Camera, facendo questa specie di sondaggio sulla Boldrini che si è lasciata con il fidanzato, e dunque noi abbiamo detto, ma insomma a voi piace la Boldrini, vi mettereste con la Boldrini? Per me è una cosa di una perversione pazzesca, la sola idea che qualcuno possa, come dire, che a qualcuno possa piacere la Boldrini per me fa parte del campo della... vuoi fare una campagna di discredito? No, che discredito? Ma no, nessun discredito. Ma ho capito, no, Giuseppe, ma veramente, ma tu che hai fatto interviste di cui non voglio rinverdire, gerontomane te la pigli con la Boldrini. Ma non me la sto prendendo. Che è sano. Cioè lui è sano, che si immagina la Boldrini che ha già collocato in un immaginario erotico. Bravo, cioè, bravo. Ha collocato la Boldrini nell'immaginario erotico delle manette, degli stivaloni, giusto Silvio? E poi? Manette, frustino e tutto quanto il resto, perché se volete maschera con la Silvio, zip, queste cose ha un'idea qua. Almeno ha un'idea. A domani, ciao Luca, ciao. Buonasera Cruciani. Allora, anch'io sono una congelatrice di gatti. Che puntatona Cruciani, abbiamo ripreso bene, comunque tutto vero, Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto degradato ormai. Radio 24. La passione si sente.